sacrificio per poter comprare una cosa. Non è sempre, non è che sempre ci riesco, però quando ci riesco Dio lo faccio, però lo faccio con molta serietà, senza fregare nessuno, senza rubare niente a nessuno. Caffa, è così che si fa. Io purtroppo sono così, vabbè, per il momento sono così, più là vedrò di sistemare le cose. Ancora se la tira avanti così, già mi sentite tutti, anche con pochi watt, così che più là vedrò di sistemarmi meglio, di avere pure io una stazione come ci deve. Mi metterò antenna, il capo grosso, perché so che il capo grosso ti porta anche più segnale, più ti può uscire anche più forte, e l'ho constatato che è così, tutto quello che ci serve, dai. Che bel dicendo. Che mal leggendo che sei. Ho cambiato da Gigi, adesso sono con quello grande. Brutto monello che non sei altro. E che cos'è questo grande? E questo è il 80, non è un 3009, no? Quando è che una 500 la Ferrari? Cava, cava. Vabbè, si conferma anche come radio, bella. È positivo, no, è bella, è bella. C'è anche la bellezza di 15 anni fuscia. Se la radio la tratti bene ti dà sempre soddisfazione. Sono due radio che mi sono sempre durate, grazie a Dio. Nel bene e nel male, facendo il cazzo di vento da una parte all'altra, sono sempre andate bene, ma è del cazzo problemi. Chi te l'ha data, però, dire che te l'ha data 15 anni fa con la radio. Te l'ha data Claudio Fancone, è Faviero. Ma uno quando le tratta bene la radio, può essere la radio più piccola di questo mondo, ma se uno le tratta bene durano sempre. Funzionano sempre bene, durano sempre, durano. Tanto sai una cosa, che questa radio per la 27 le ho portate io a Sassari, le ho fatte conoscere io. Tu immagini che il 80 è il secondo che ho avuto, e Antonello, come l'ha visto, lui ci aveva il 250, mi pare, in cosa, l'effetti 250, che era bellissimo, un tortronto, non lo doveva dare a me, invece ce l'ha venduta. Poi dato il 180 mi sono comprato il 430, dal 430 l'ho tenuto parecchio, l'ho venduto, l'ho ricomprato, poi sono passato al 440, poi lì Aesio 757, 757 GX2, 820, 830, 840, 930, 940, tutte le ho, io non ho mai in 27, mi giuro, parlato col baracchino, sempre avuto queste radio, da quando sono arrivato a Sassari, da quando io andavo ormai al M2, quando era in via dei Mamili, come mi vedeva si spaventava, passavo, in vetrina, una radio nuova c'è, Mario, dammi, ma l'hai quella lì? Guarda, l'ho fatto l'altro giorno, fammela provare, no, te, ti sto versando questa, dammi quella. Allora così era, non ce n'erano tante di queste cose, perché per la via non se ne sentiva però, perché magari c'era quello che ce l'aveva ma non se ne diceva per paure da lottare. La prima volta mi ho misurato l'esplorario, ci mettevo un rifornitore qua di via Milano, che era appena nato quel rifornitore, e sciove. C'avevo, non così come sono adesso, ma insomma c'avevo le foto della pirata, e non è che era molto, il discorso non è che ho visto tutte le foto di quella stanza, per far capire alla gente con tutte le date di cosa avevo allora e da sempre. Il numero era molto molto diverso, molto più piccolo, perché c'era una scrivania solo, però. Ma quando suonavano il campanello era il nono piano giusto allora, e da terra al nono piano c'era il tempo materiale per poter da chiamare l'ascensore e tornare a salire, c'era il tempo materiale per attaccarne tutto. Una volta 21 suonano, chi è? Esco radio, sì, mi apro, boom, mi muovo tutto, e rimani Giuseppe, e ci metto tutto dentro l'armadio a saccadura, e rimane l'FM 500S, non mi ricordo come oggi, capo con un alimentatore che era da 40 ampere, con tutti i cavi di drone nella, cioè avevo 6-7 antenne sul tetto, con tutti i cavi di drone, quello allora 200 RG8, e mentre cosa, scioppia, come dico calabrese, un braccio di bufalo, siamo un giorno al suo baracchino, dice, venga, c'è come da qua, fuori una scrivania manna, tutta viuta, me la venendo la UGP, Giuseppe, UGP, cazzo vede questo FM500S, cazzo, questo alimentatore a 40 ampere della, il primo alimentatore che avevamo fatto la ZG mano a mano a trasformatore. Dice, ma io c'ho questo baracchino, questo alimentatore, e tu esci, ma non l'altro, non so. Ah, io sempre mantenendo il barolo Giuseppe, fa vedere le monete mantenendo la rampa dell'armadio, perché si mollava mica già tutti in terra. Ci chiedeva alcuni, guarda che sono quel primo cassetto, no, ce li via lì. Quanto vale, cioè, la rampa dell'armadio che mi si è staccata dalla cerniera, ci aspetta che la mantengo io. Altrimenti mollo, baffalo, giambo di mano, sabbia, la bordiera di gaggini, tutti li radio in terra. Ah, non sei la radio che c'erano, l'FT757 GX2, il 430, erano le mie mano a mano, le mani di gaggini, vedi in gessa. Mi ha detto, guardi, noi questo ce l'aspettavamo, a questi livelli no, perché potevano anche lasciare tutto attaccato. Adesso li facciamo il verbale, dopodiché vediamo cosa succede, guardi. Non so se può già dire lui, attuale, le prometto che mi prendo la patente della radiomotore, così il discorso è chiuso, va bene così, se ho badato del dice, riesci per la patente della radiomotore? Sì, sì, te lo prometto. Guarda, la prossima volta che lei viene vedrà che io sono già radiomotore. Va bene, fanno il verbale, ha messo praticamente che insomma, quello che hanno trovato, eccetera, ha chiuso l'uccio. Finandani. Mi metto a studiare Giuseppe e divento un W0. Ah, taglio di tu, fatta è. La patente ce l'ho e tu la pesa tutto. L'HF, UHF, UHF, tutto, tutto. Però le patenti, il W0 potevi praticamente, aspetta che abbasso, mi sta toccando la radio. Ecco. La patente W0 no, ti limitava praticamente ad usare solo le VHF e le VHF a 10 watt, però non potevi usare le HF, io già di una, pianto tutto, poi sono passati, perché loro lo sapevano, ci passano 3-4 mesi e tornano lì, chi è? Esco radio, ah ho detto salga, finalmente salga, è contento, entra, tutto piazzato, bellissimo, ecco ma va. Patente, no, patente, legge, il W0 vuole T, dice no, siamo capiti, quelle radio che le ha messo, non le può tenere, non le deve usare, cazzo prima l'hanno fatto normale, allora 250.000 lire, cazzo gli ho detto, come può, ma scusi io sono radiomattore, no, no, lei è radiomattore per quelle due radio, quelle le deve togliere, e mi hanno fatto il verbale da 250.000 lire, quando poi sono diventato IS0 non mi sono più trovati. Manco la soddisfazione, cazzo, si sbatte gli patenti in faccia. Invece mi ha preso così, la sprovvista io, figurati, ero più bellino, non sapevo, ne sapevo che c'erano le V1 limitate a 10 watt, adesso ce le abbiamo tutte a 100 watt, gli amplificatori prima erano a 300 watt, adesso sono a 500, e insomma è un po' cambiata la situazione, ci hanno aggiunto le bande, i semitri, adesso pare che vogliono aggiungere anche 70 mega, quindi vai a comprare un'altra radio, ma non me ne fotte nulla, ma per dirti, cioè in quel tempo lì, che Antonello lo sa, perché Antonello ne ha passato peggio di me, gli unici che tentavano erano a me e a lui, ma era una cosa allucinante, io lì, perché ho detto basta, mi sono rotto le palle, cioè c'era una mia piccola, avevo un mamma cuba, che andavo a fare una ricapo alla radio, siamo messi a studiare e mi ho preso la patente, prima la W0, poi mi ero preparato per la telegrafia e sono andato alla telegrafia a Cagliari. Invece mi ero congedato io come caporale maggiore seconda classe radiotelegrafista, perché sono imbarcato la prima volta che sono partito militare, ero imbarcato sull'interno Veneto ed ero radiotelegrafista. Poi quando sono andato alla Maddalena, che sono sbarcato a terra, ero lì all'ufficio del telegrafo, però a terra, all'ufficio postale interno delle scuole lì di sottufficiali. E quindi quando mi sono congelato mi è valso praticamente il primo imbarco che ho fatto. E siccome i caporali maggiori di seconda classe erano esonerati dalla telegrafia, ma anche volendo dal primo esame, se lo sapevano non sarei neanche andato a darli perché avevo l'esonero, che ancora oggi è valido quello, e poi devi essere perito elettrotecnico o perito elettronico, però con diploma delle industriali e non dell'INAPI. E quindi sono andato per dare gli esami della telegrafia e mi hanno esonerato. Dopo 30 giorni mi è arrivato il primo nominativo che era IS0DCR. E invece poi mi hanno dato quello definitivo che è IS0DFB, che ce l'ho ancora dal 2005, mi hanno cambiato nome a titolo. Forse una volta che uno ha il patentino, anche con le bande radioamatoriali, deve essere un altro mondo. Quando ci siamo ascoltati stasera, mi c'era Antonio, l'ha ascoltato con Vannino, perché anche Vannino è rimattore, sta qua appunto a fare due chiacchiere con noi, ma da cittadina, eccetera. Mentre qualche radioamatore si vergogna, capito? Perché la parte dell'radioamatore è come il principe, no? Capito? Uno è un barone, l'altro è il principe, capito? Noi siamo dei cipitù, no? Rispetto ai radioamatori. Quindi qualche radioamatore non viene qua perché non si abbassa più a parlare nella 27. Invece io, Vannino, Marco, Massimiliano, tanti altri radioamatori, mi fa piacere intanto scambiare due chiacchiere qua e le facciamo. Quindi non è un problema. Capito? Ci mancherebbe altro, figurati. Cioè uno se stacca da, che ne so io, dagli apparecchi e dalle apparecchiature radioamatoriali, non vedo il motivo perché non possa farsi una chiacchierata sulla 27. Perché loro non ci tengono, capito? Come fa l'animatore a passare 27 e abbassarsi troppo? Non ricordandosi però che tutti gli animatori in tutto il mondo hanno iniziato col baracchino a trasmettere, a meno che non sia proprio una persona a livello, cosa ti posso dire, tecnicamente preparato, che non era mai tutti di lungo il baracchino e che quindi si è preso la patente dell'animatore perché gli andava di fare solo l'animatore. Ma è molto molto difficile, molto molto difficile. Invece Antonello si è ubbidito anche il caffè gli ha offerto, vero Antonello? Appa, se non è brutto Caleotto, io non l'ha detto fuori, mi ha detto. E tu vieni da dentro che gli ho offerto una birra, un caffè, e non l'ha detto fuori perché aveva la stazione, però la stazione è giù e tu, a Santa Maria è facendo il tuo ricordo di tutto. Aveva fatto passare già quello e tutti i cibi che si è controllato in un mese mai l'ha fatto in vita sua, c'avevo un vespaglio tutto il caso, ma è andata a posta, veniva a casa mia a controllare tutti i cibi perché c'erano a toccare gli occhi, tutti con calmare bene ogni fortuna. E quindi ce l'avevi sempre sotto casa Antonio? Sempre sotto casa era, si metteva nel panificio dietro e controllava ognuno che arrivava con la macchina con furgone, controllava tutti, controllato Gesù Gruppo Giallo, ha controllato a quel poveraccio che si era sotto di del Bentuaglio che non ho più sentito al baracchino, poi Alessandra quella del giorno, tutti li ha controllati, Andrea Maricomio, anche Andrea si è salvato perché grazie a Dio in quel periodo lì stava lavorando con Marco Michi e quando è andato a fare il controllo sono arrivato il meglio a Iau, sì, ha fatto, arrivando lui ha detto no, bello mio, il controllo prima lo faccio io e faccio il rapporto, il rapportino, poi tu gli ho detto. È stato costruito da lì, non è tirato le balle, da quella volta lì non c'è più venuto. Mamma mia cara, certo che con la gente doveva essere una spina in un fianco. Sono in due, tira e zucca, tutti e due erano una cosa lucidata, venivano apposta girati le balle, non facevo altro che passare, ma casa mia. Poi la casa mia andava alla casa di Claudio, la casa di Claudio andava alla casa di Angelo Delfino, la casa di Angelo Delfino andavano addirittura a casa di Andrea Maricoli a Ossi. Facevano tutti i giorni quel tragitto. Oh Antonio, è da un po' che non lo vedo più in circolazione. Un paio d'anni fa, guarda, un due anni fa, ogni tanto si vedeva, si vede anche qui dalle parti di Via Baldetta molte volte, antenne fuori, ma adesso sono da un po' senza vederlo in circolazione. Vabbè, sono certi casini di prima, erano tutto gli aglio, perché c'erano 200 cittadini che entravano, ognuno parlava come voleva, tutti pompando, mi trovavano la televisione nelle palazzine e tutti i cognomi si lamentavano, quindi c'erano ragione, sono tutti venuti per quella, per quel motivo più che altro, perché era troppo il casino di prima, tutti tanti pompendi, chi 300, chi 500, chi 1000, poi c'è che se ne andava... andare a girare le ballerine dei vattori, come tanti che sono diventati presso dei vattori, prima facevano gli abusivi e andavano a girare le balle, ai vattori dei truppi, li facevano per l'acqua, tutti in vazia. Poi hanno preso il patentino, sono calmati e sono rimasti di là, non sono più tornati di qua. L'unico che gira a gira che è diventato il 27 è Walter, sono gli altri che usavano la frequenza delle materiali solo per scopo di fargli incassare le vatture, non li più sentiti, hanno preso il patentino e non li più sentiti. Ma Giuseppe? Dove sei spartato Giuseppe? Adesso mi ricordo già non so come faceva a pezzi a cosa, a fatti wiki. Eccomi, sono qua. Come è tempo? No, mi sto controllando che mi ha dato questo cavetto con dell'occhio. Questo cavetto dove c'è, ci sono già pelle attaccati, proprio il braccio di ferro, che se ci vuole mettere a salgare di fibiere, mamma mia, che è un altro isolante giallo, io c'è. Io lo metto. Sta delle porte che hai avuto l'apparecchio, che se hai pagato poca roba ne basta la pena. Dove si va? Ha fatto l'evento come... so cosa ha fatto, mi sa che aveva due cosi di colpo lì, me lo pugno. Niente, sarà il gatto, ma non ti piace se ne fa un testo. E cosa vai? La porta alla finestra aperta? No, la finestra non è aperta. È aperta di... quanti posso dire? Il capo del 58 più che altro, capito? Ma sono i tre capi, quindi non riesco a chiuderla, ma... siccome c'è una testa come quella della mansarda, no? E quindi il vento è diventato forza vento. Beh, signore, riprendo io perché devo fare bianco per un po', che mi sa che sta arrivando gente, hanno suonato il citofono. Niente, dai, ci risentiamo più tardi se ci siete. Qua sogno, Giuseppe, qua sogno, piena libertà, fai pure, attendi le persone che ci sono e quando vuoi, ti ho detto, io sono sempre qua, tu chiama. Io sono davanti alla guai, ma la maggior parte sono sempre qua, Giuseppe. Dai, buon fine serata, buon tutto e grazie della compagnia, Giuseppe. Vai, Antonio. Via, ciao, Giuseppe, ci sentiamo, buon credito e buon tutto. Alla prossima. C'è l'antico delle 4.03, attaccato alla finestra. Non vedi bene quante balla, ragazzi, quando piccolino. Ora arriviamo, vecchio. Meno male, sta tenendo le cose, se il mondo poco tirato si balla tutto in terra. Beh, non posso immaginarci le giubbielle, tutti i muri che... No. mia, uno mio, quella era la scelta, non ti corpo di farmi, non ti corpo di farmi, io non mi attacco, ma proviamo, se va bene. Non c'era cambiare in quella geccia, cambi di tutto, portare a controllare il valore dei soldi. Una volta che e poi pulisci bene il collegato di variabili, quelli che ci sono. Almeno sei tranquillo con l'attacco lineare, se da tutti quei watt, 1% sono 1%, non è che avrebbe bisogno di 31, quindi deve essere pulito bene quell'apparecchio per controllare bene. Urano, bello, questo è poco bello. un'operazione completa, però ecco, quello che c'è il ferro. Sì, me l'hai detto. Lo sento ieri sera quando stavi provando. No, già c'è bene, non è che c'è male, c'è voglia. E hai fatto bene a prenderlo. Dovete andare a ritirarti con quel somme capo da Gian Maria, che ce l'ha ancora giù, ce l'ha. E così si è a posto. No, Gian Maria siamo già d'accordo perché viene lui a portarmelo, capite? Viene lui a portarmelo, vuoi vivere la mia trazione. Mi fa piacere a Gian Maria che venga lui. Io sono già andato. Non ci avevo detto, ho detto va bene, ora già vengo io a portarlo. Vuoi vivere? Divorziato, non aveva costato tutto la luglia. Non sono impegnato a lavoro, non ho impegno di lavoro, sto lavorando, va bene così, sono a dovere e poi piacere. Tu io sto lavorando, ci siamo sentiti anche per telefono, impegnato, mi fa bene, uno quando non impegno di lavoro uno prima fa quello, poi si fa il resto, poi si è creato una piccola impresa sua personale e quindi sta lavorando, grazie a Dio, è un po' impegnato, deve stare un po' in giro, però va bene così, quando uno crea è giusto che gli impegni si mantengano. Beh, se vuoi sopravvivere è proprio fare così e fa bene. A me ne incassa un po' di soldi, non deve stare così da far nulla, a parte poi a me gli verrebbe la luglia, la verità. Quindi, anche io quando sono a casa sto facendo, quando sto facendo, diciamo, non sono andando fuori sto facendo, adesso è che ho l'impegno di mamma che sta, non sta bene, quindi devo stare sempre, sta discendi, eccetera, eccetera, e quindi la testa da una parte all'altra, non sto neanche più facendo neanche una riparazione, perché non ho, c'è la testa un'altra parte, quando c'è sempre anche altre cose non ce la fai neanche a fare nulla, perché ti dimentichi quasi tutte le cose, quando poi invece sono tranquillo, vado e faccio le cose. Oggi mi sono pensato questo microfono, mi ha dato Gian Maria un microfono con la macchina di TMF, ho levato tutto il circuito interno di TMF e ho fatto diventare il microfono normale ed è una bomba, esce benissimo oggi. Se chi è? Poi sono rientrato. Mi sembrava un indiano, mi sembra. Chiappa, lo sai, ogni tanto c'è qualche cosa fuori posto. Già che sono tutta la sera qua, adesso già qualche. No, io non c'entro nessuno, c'è la bomba da te. Bombo infatti tanto. Infatti, no, io ce l'ho tante, non sento niente. Se c'è temporale qua, allora sto andando con l'antenna, quella, come si chiama? Con la filare, là. Capito? Aspetta. Ecco qua. Va bene così. Mi senti, Antonio Bombo? Una meraviglia, e tu mi senti? Sì, sì, ti sento. Papa, scusa che ogni tanto c'ho qualche sclerazione strana. Capito, non è andato in battuto indiano. Ah, altre sono? Sì, a fare, ecco, lui l'ha niente a subito, sono sicuro che farà, penso che faccia qualche rimonta, farà, perché se riesce a sfruttare bene le entrate di curve, è un po' così, se riesce a sfruttare bene i rettilinei, riesce ad avvicinarsi molto. Già pronto, bello, anfero, giorno mi fai vedere queste sia le nappe, no? Ti voglio vedere come sono fatte. Ciao, hai capito? Io no, cioè, non lo so. Guarda, ci sono tutte persone che mi stanno sulle palle, ma solo per quelle cose, hai capito? Solo pago dal tubo, perché molte volte non hanno nessun riguardo, non hanno niente, trattano la roba male e cosa. Già che cominciano a non poterti vedere per quello, hai capito? Sono fatto così, io sono quello che è, io ho sempre trattato bene, anche perché nessuno me l'ha dato, l'ho sempre lavorato, no? Forse in quella canaletta, buonasera a tutti, Blackhead. Buonasera, chi è che abbiamo l'ora di parlare che non ho capito? Buonasera anche a lei. È sempre male da questa parte, c'è Sparviero? Ci sono, Henry. Sì, ciao, Flavio. Quanto sei scendato? No, mi sono svegliato poco fa, sono andato a farmi la doccia, a farmi la barba, capito? Sono andato al barbiere personale con la lametta a farmi i capelli anche. Ma capelli con la lametta devi farlo? Allora, sempre così, ce la faccio a regalare 10 euro al barbiere, non mi piace più. Sì, ma siccome il mio barbiere me ne fa uno di scimmia, se mi hai tagliato magari alla cazzo di cane va bene lo stesso. Vabbè, ci possiamo mettere a solo, non c'è problema. Anche per adesso proprio devo andare al vecchietto, la vecchietta. Capito? Se mai tu mi lo stavo a già mangiare, in danza, gli ho tentato preparato quello che ci è rimasto, di fare il pesce da porto e mangiamo quello che ci è rimasto, là. Bene, va Antonio. Eh? Antonio sta dicendo bene, va. So che va bene. Siccome c'è il barbiere che ogni tanto mi fa i capelli a cura dei rondini, no? Se lui mi rifà il culo di scimmia va bene. Ma che barbiere vai? Cazzo il vedo. Ma lo sei campagnolo, lo sai? Il vedo lì a Sacro Cuore. E non li comprato un cazzo. Mi fa sempre i capelli a cura dei rondini, capito? A cazzo di cane. Bravo. Cosa bravo? Ah, no, perché ci vada che ci imbruglione. A che ci vai a bombo? Ah, così è. Ma cazzo. Ma avevi detto pure che passo una cagata. Vabbè, tanto anche a me ne passa la macchinetta, non può che capire, non c'è problema. No, ma lo si fa proprio con la lametta, io no. E quando c'avevo la moto me li facevo con la lametta. Ma adesso no. Non c'è niente, non c'è già, va bene così. E allora amore, hai mangiato? Sì, non guardare il segnale che è basso perché sono con l'altra antenna. Il segnale io non lo guardo, io non mi interessa la radio è sempre ultima e quindi non c'è problema. Va bene, ci arrivo anche lì punto con questa antenna, più che ultima, questa antenna filare, perché c'è troppo corrente. Qui c'è il temporale in vista, allora per non rischiare abbiamo messo questo. Non sento la gente che chiama da lontano, però da vicino già la sento, perché questa è puntata a nord dell'antenna. Stasera la ringo, qua. La ringo la sto usando io. C'ho io la ringo, Lem. E comunque sembra, gli affutti il rabbino, ma va bene. E siete che noi muoviamo i radiali, ho sopra una cibola Fabrizio, glielo già detto, ci facciamo fare l'anello filettato, poi mettiamo il radiale, noi te lo possiamo dire se mi sente una bomba. E io non c'è problema, cioè quando è pronta, inizia a fare qualche giornata di bello di sole, che ci può salire sul tetto, lo saliamo e facciamo quella modifica che avete tutto, così vediamo se può fare di più. Ma che sta pompando bene. E non le voglio mettere radiali, ho tanto capito. I radiali le voglio mettere. Per avere un piano di massa superiore con quella radio mia. Papà, sono convinto che se tu la metti nel palazzo tuo, guai. Arriva quanto la matto fa. Sì, infatti io la voglio mettere. Le voglio mettere un'altra di antenna. devo mettere un'altra antenna, capito? Dove si compra questo arrivo? Quanto bucia? Ecco, se l'ho preso da Fugiale, se non mi sono le 35-41, non mi ricordo, la Fugiale di Alessia. 32-40. Da Fugiale si compra. Dove, chi è che ce l'ha l'M a fatta lì? Fugiale, l'ho comprato da Fugiale. L'abbiamo piazzata noi quella, no? La volta la tua o la tua? Ehi, l'avevo fatta io, tu e Luca e Falchetto. Ah, è vero, è vero. Noi eravamo scesi noi. Sì, ma l'avevo tarata io la rondellina delle stazionarie. No, eravamo noi due qua giù e Luca e Antonio sopra. Ah, è vero, è vero. Sì, che la tarata Luca, la stretta Luca, la misura giusta. E non è a stazionare, è vero? No, invece me ne c'era 1-2, 1-3 massimo, una cosa del genere. No, una volta che saliamo ci può anche abbassare 1-1, qui. Sì, 1-2, non so stazionare. Cioè, va bene, c'ho 1-1 io, in tutti i canali, Quando lo trago l'amplificatore, invece di salire abbassano. Fattimi un secondo, Maure, mi prendi con Mongo, arrivo subito, ci butto questa mongetta, se no non prendi giù qua. Oh, eccomi qua, è rientrato, positivo da Roche. Ehi, avanti. È positivo, dai, qua, Antonio, capa, Antonio 441, qua. Tucca. Luca, vogliamo, Valmonte. È positivo, dai, qua, 1-3-1, dai, guardate qua, capo positivo della Roche. Aspetta, abbasciamo i rimonti. Come? No, Lucaria, abbasciamo i rimonti. Schiatta, sono parlando piano solo. No, sto arrivando a bomba con il radio, come sempre. Ehi, era male paracchino, Allora, l'unico problema di questo paracchino, se vuoi, sai, se io lo metto tutto, vabbè, tu no. Ora parla Claudio, lo sento un po' distorto la modulazione, ma perché è il baracchino che riceve male? Se non lo fa riparare. Che baracchino è? Un Typhoon da tagliette. Ah, ho capito. Ma oggi è abbastanza chiaro, ma è fatto forte lo stesso di lui. No, di esagio va benissimo, e auguria. Le pensiamo ai buchi. Il problema è la ricezione. Ma mi sta arrivando a picchi di 9.10. Pensa tu, andava, saranno 10 watt questo, No, va bene, a me Claudio, è l'altro paracchino, è andata a buttare la mondezza o Lucarino? Quel paracchino là, amici, ha messo col microfono ieri. Ah, buccia, bene. Ma le stai dicendo? E io quando sto arrivando alle punte con 4 watt. Guarda, mi sta arrivando 9, appena di più di 9. Ma già va bene, a voce che c'è bene. Io sto usando un po' che. Va benissimo. E quale baracchino stavo usando, Lucario? Ma io? Claudio. Ah, un... Qual era il nome, se non mi ricordo. Comunque, dalla Intec, digitale, bello, Dice, non l'ho mai visto la barica, vabbè, c'è tanti, un mediano, infatti un gol, sono 97 avanti. È un Galaxy Urano, boh. Ma quello che ho visto io l'altro giorno, Claudio? No, ma l'ha dato Luca da poco, capito, ieri praticamente. Bello, è un bel baracchino, ma tutto digitale, io la tastiera, molto bello. Però ti sento male, qual è qualcosa, che non sei chiaro, Ho trovato qualcosa lì. Antenna, ha detto, mi ha cambiato antenna. Perché non mi senti? Aspetta che sollevo un pochino allora. Adesso mi senti bene? Adesso sì, prima di proprio... mancavo di radio, di... come dire... mi viene la parola. Vabbè, non è di più, fa un passaggio di nuovo, vai. Guarda, vedere se sono lì, adesso. Adesso sì. io vi saluto che... Sono pochi fatti. Vai, allora. Ci sentiamo dopo, più tardi. Ciao. Ciao a tu. Ciao a tu. Ci sentiamo, non lo so se più tardi, poi no, domani niente, ci sentiremo al limite martedì sera, perché adesso io devo andare a svuotarmi di casa e quindi casomai ci sentiamo dopo una volta. Claudia, anche quello che mi hai fatto vedere che c'è anche l'altro giorno, già è... me l'ho tolto. Cosa? Quello che era 200. Quello? Quello che c'è di sopra, che mi hai fatto vedere, dai. C'era sotto bandiera. Capito, quale... Quello che ti fa vedere, la frequenza del canale. No, no, oh, questo è diverso. Questo è un baracchino normale, non è come il Corlino. E il liscio è turbo. Un baracchino normale, un galaxy, Amadeo, Sbora, Matteo, Peppino, Antonio, ciao, quanto ci sentiamo. Bello però, bello, degli anni che furono. Questo se me lo guardo via internet, per vedere quello è modello vecchio. Allora, si chiama Galaxy, la dieta di un video. Uranus, capito? Galaxy Uranus. E hai il guardo. Eccoli qua. Oia. Io ho un po' perché sento. Prova. Bruciata, quella che hai visto prima era, che hai visto adesso l'ho tolta, l'ho tutto pulito, lubrificato, ventola, le valvole tutte tolte, pulite. E c'è quella resistenza bruciata, sai perché? Perché in quel baracchino c'ha due potenze, ok? La potenza numero 2 non agisce, quindi quel baracchino stava funzionando a 25 watt, il lineare d'ingresso ne ha 10 e ha bruciato la resistenza. Ecco, no, io ripeto, l'ho messo in moto, qui stavo come parte subito la ventola. Anche il mio è così, anche il mio, quello grande è così, deve partire per forza per affondare subito le valvole, capito? Deve fare lo Smith, ho fatto la protezione, incollati bene, tutto a posto, l'ho tutto pulito, là. Dentro non voleva venire, hai visto come era dentro? Via. Ho tutto aspirato, pulito, la ventolina adesso è bella, bella lubrificata, e così vediamo un pochino poi come la situation, quando l'ho messo a posto, martedì, vado da DBC, compro Michel Andoch, lo proviamo, capito? Perché questa resistenza l'ho attaccata, l'altra l'ho portata lo stesso, messo il coso e pulito tutto. Ascolta, ragazzi, se non ho visto male c'era la ventola che era un po' sporca. Come sale lo Smith in banda? Valentino sta tirando come una bestia, sta cercando di guadagnare, vediamo nel rettilineo se li prende. Ciappa, ha guadagnato alcune posizioni, ha guadagnato. Speriamo che vada forte. Ma cos'è l'ultimo partito? Adesso. Sembra che sia un tappo. Cos'è partito? Partito dodicesimo. Che adesso vada forte per prenderle. Vediamo, lo recuperi. Siamo. Proprio quando prende il rettilineo apre il gas. È una bestia, eh. È un pochettino. È un po' scomposta con la moto. Isso Maria! Negativo. Non è entrato nessuno. Dai Vale, prendilo, prendilo! Porci caro! Dai, sfrutta la potenza! Ho visto che pian pianino si avvicinerà, eh. Però stai attento, cazzo sì! Cazzo, sono una bestia, sono un cazzo motore di 1000, cazzo! Tra il gioco è 330, 340. Io dicevo, lo fuma. No, è micidiale. Tutti 200 cavalli, 240 e basta cavalli con le moto. Minchia, che cosa li fa scala di gioco? Ora ci vogliono i professionisti, sennò ti tronchiamo la mano di Rugoso, eh. Infatti, bisogna lasciare la guida, lascia guidare. Non è molto per pipellini, no, quello. Se non l'ha già guidato ti fai molto molto male. Positivo, positivo. Ciappa. Ah, con Lorenzo. Lasciatela. Ciappa, maestro lo riprende, io lo so già, perché ha più trazione lui. La velocità più bassa la Yamaha. Davvero, davvero. Ciappa, no, va più la velocità più bassa in confronto alla Ducati, in confronto alla Honda, tutte quante. Sono la velocità più bassa. E si conferma. La trazione in curva è molto veloce. È un po' sì. Un po' diversa. Adesso vediamo com'è. Ah, io la me la prendo chiaramente. Io, adesso vediamo la passata dei cinci come fa. No, bisogna ricordarmi. Chiaramente, ricordarmi. Lo so le spalle. C'è la crema palumbo. Ah no, per le rughe. C'è la crema palumbo. Attenzione Fabrizio, Antonio Rode, ce n'è uno? Stanno all'amore, stanno. Antonio non sarà ancora rientrato dal lavoro. Fabrizio non so dove era stasera. Fabrizio. Ah, giù è. Ah, giù è Antonio Rode. Non ho capito. Tornaio, Antonio. Penalizzano, no? Che penalizzano? Adesso sei uscito. Fuori? Non puoi troppo. Non rientra più, non corre più. Come vedi che sta correndo? No, è esagerato troppo, ci sta appena appena in pista. Deve essere sta spingendo troppo. Ho capito. No, lo sento. Lo vedo un pochino da lontano, capito? Non mi sono accorto, l'ho girato. Scappa. Adesso vediamo se recupera. Non è che mi ascolto questa antenna. Ha voglia. Non scarichi, ne hai più temporale, ancora c'è. Pulito qua, pulito, pulito, guarda. Non li scarichi ancora, non me li scarichi, con questa antenna un po' di meno. Con l'altra c'è un po' di scarichi. Non agisce qua l'affare HI, pressure, no. Come dice qua, ok? Love. Sì, sono sporco, sono... Se era un bel po' di anni fa, per forza fa così. Per il CVC, lo riporti al secondo CVC originale. Non so cosa risulta. Per quello me l'ha bruciato l'igniato, per quello, capito? Perché no, non le funzionava la potenza. Vedi, 15 watt. Però se io lo voglio portare a 5, no, non cala, a meno che non ci sia un programma, qualcosa. Vabbè, adesso sistemati la macchina venuti, magari fatto programmato, cosa ne so. Lascia, vediamo. Già sistemiamo, non c'è problema. La radio com'è bella, contane più tre sono. Sono buona, perfetta. E il bip si sente? Sì che si sente, appunto. Così lo facciamo andare perché da un bel fermo, capito? Tanto per fare questo locale, già va bene. Bella radio, la tastiera che fa il buio non l'avevo vista, tutta illuminata, tutto illuminato. Ma le cose che è bella, è un bel apparecchio, non è questo, tienilo. Però va bene anche per la sola in macchina qualche volta. Sono solo una 48 oggi. Da sotto casa parlavo con Gennaro, era 48, è tutta birra, 40 watt, tutto le coperto, con la PLC 800, una bomba. Gennaro c'è la posizione buona, è molto buona la posizione di Gennaro, c'è forte, penso sia uno degli unici che arriva la buona ora tranquilla, come si dice, parla con un po' dottore, secondo con l'ottava. Quello parla con tutta la Sardegna, parla da Rambonova, adesso è un punto alto. Mamma mia, dire che c'ho il baracchino io che non lo sento, capito? Che c'ho il baracchino con l'antenna piccola, non lo sento. Ti miro. Magari mi sente a me, ma io non lo sento con questo baracchino, capito? Perché sto usando questo baracchino piccolino. Lo senti, Antonio? Dice, sento qualcuno parlare sotto, sono la direttiva io ricevendo, sono in orizzontale ricevendo verticale e trasmettendo. Poi facciamo il direttivo, è andata a sentire cosa. È perfetta la cosa, vedete quando posso passare per dire, per sentire 28 e non mi fa nessun abbattimento. Quando sei così, cioè un'interfaccia di verticale e ricezione orizzontale, senti tutti perfetti. Né strade, né nulla, né QRM, nulla, senti pulito, pulito, pulito, pulito. È una bella ricezione, certo barchio, certo che balle. Mi ha fatto fare veramente un affare, Luca. Un bel baracchino. Non ne avevo di baracchino così, è molto bello, silenzioso, funziona bene. Molto bello, sì. Fatto bene le tirate, adesso... ti dico che 23 cavalli sei a posto, poi un domani figli ti fai, vai in qualche piazzetta e li vendi tutto, tutti gli apparecchi che non te ne fai nulla ti vendi. Non apparecchi io me ne faccio niente, allora gli apparecchi non ne ho manco uno, guarda, uno regolato a Mauro e basta. Avevo intenzione di regalare un base, ma non regalo niente a nessuno. Ehi, gappa. Va bene, io ho parecchi, non le prendo altri, ma sono stato poi di ciò, ma stavolta non è neanche più di la casa di apparecchi, di baracchini che abbiamo fatto tutti i anche se lavoro, se ho dei soldi, spendo in altre cose e basta. Più utili, ho spiegato il televisore, l'altra volta, e adesso ho pagato alcune cose che avevo da pagare e sono tranquillo. Sì, vabbè, io ti ho detto che questi non li ho, quelli che ho comprato sono questo e quella, la stazione di Maria Mao, che adesso Gio Maria si ti ha detto che deve venire dalla figlia e me lo porta. Capito? Gli altri ce l'avevo tutti dentro l'armadio, Zodiac, Noit, l'MS-200, il Seas, l'HB-23 mi ha regalato Gigi Vulcano. Ah vabbè DAC, sì, questo sì. E poi tutti gli attacchi F ce li ho sempre avuti. Anche se non li mettevo tutti è perché non avevo posto, capito? Sì, cappa. L'unica cosa guarda che. Che magari se compro il Saturnecco basta, perché quando ero al centro storico si guardava come pagare a cavallo e non trovare perché l'ultimo mese mi è arrivata una bandierata di 150 euro di luce di casa e quindi data la bagna era buona genere e quindi ero venuto a Malaga a Natalino. Se dove si prende prendo solamente un Saturnecco e ci metto un cavalletto proprio per lì, non per altro. C'avevo la penna, c'ho la Gran Provincia, mi hanno attaccato il razzino, quindi e lo lascio così come belletta. Che vado di 20, è un bel apparecchio. Poi non piglio l'altro, il resto ce l'ho tutto. Ma infatti il bello dei base sono che te lo puoi mettere in camera da letto a 220, non rompe le palle, non ha bisogno di alimentatore, non ha bisogno di niente e va bene così, capito? Quello è il bello di questi dei baracchini bassi. Quello sì, no, ma se lo piglio per nuovo, non lo piglio che abbia problemi di gestione o problemi di trasmissione. Piglio uno. Il nuovo che non abbia nessun problema che sia perfetto. A questi fanno già a Cagliari per dire a Frenero, però me lo piglio qui dalla Sardegna, ma come c'è la plastica? Fuori non ho preso nulla, dai eBay. Perché che scende a Cagliari, faccio un viaggio, poi spendo 50 euro per dire di benzina ma, o di gas e mi rivetto. Io ce l'ho sotto mano un Saturnecco, ma no, non ci sta, non me ne faccio niente. 200 euro, nuovo. Del mio amico di Alghero. L'ho usato pochissimo, capito? Infatti me l'ha detto se lo voglio di andare a prendere. Non c'è problema. E dovevano mandare ancora a casa se si muove, ha detto che me lo spediva, invece poi si è ammalato e. Insomma, martedì lo telefono. Un Simba, te lo ricordi il Simba base, quello SSB, che è programma 2, mi sa. Già lo so, che quello è grande, quello di Simba, è bello con l'apparecchio. Però se ne trovo l'apparecchio in giro, devi solamente fare la ricerca dei vecchi CB che non sono più modulando, magari, ma anche lo troverà pure, se non se ne fa nulla. E il fatto che non incontri più e ora che una volta c'avevo un bel giro di apparecchi me ne giravano 10-20 alla volta, c'avevo tutta la massa da pila di baracchini. Da quando mi sono traslocato io ho detto no, ne voglio due sabbi, infatti quando sono venuto qua a casini come di là nella casa non ho fatto più, c'è una cameretta piccolina, c'ho la roba che mi riparo mia e basta. Poi a fare i casini in casa così no, guarda che cappella, ve la posso. Adesso quello che ci mette in pratica riusciva a recuperare al bar lo bevevo ogni giorno. Dalle 8:30 del mattino veniva la sillabica, fino alle 10:30 di notte, una o due culture mi ha già ubriato, mi viene il tetto. Ma me. Guarda io. Vabbè, ma erano altri tempi, Antonello, non è che si poteva fare diversamente, capito? Erano altri tempi, dai, c'era molta più attenzione, e con questi baracchini così, piccolini o grandi, si faceva il massimo. Adesso siamo tutti super dotati. Sì, anche prima eravamo super dotati, chi 300, chi 900, chi 1200, e ora e c'è un po' che mi sono capitato in mano. Una serata quando lavoravo da Marco, ne avevo giocato meno una quindicina, che stava buttando, quando mi ha preso a lavorare, mi ha detto cosa sei fai tu qua, e poi io mi dico, mi ripeto a fare riparazioni, le testazioni per la banca, e quindi già la so fare. Poi ho detto, guarda, se diceva che ti ha portato a casa e mi hai abbandonato il tecnico, c'era prima che era un tecnico dei carabinieri, ma ha detto, ci provo. E allora almeno una quindicina belle di bocca, ci sta buttando, perché quando loro dicevano, in pratica non li tiravano nemmeno. Poi mi sono appentato, non sapevo cosa devono fare di laboratorio. Allora uno me l'ha levato e gli ho detto a Marco, ho detto, telefono, ho detto, questo apparecchietto che sono a posto funziona. Dice, come hai fatto? Ho detto, di solito c'erano quattro pezze lì. Ha chiamato il ricordo e si è recuperato i soldi e allora mi dava accanto a me e intanto lo pigliava lui. E io quasi tutti fatti fuori. Mi hanno lasciato solamente un qualche stradino portato e non era stato che l'avevo portato a casa. No. Quello poi l'ho regalato a 89, un manino con la tastiera bella, era una cosa standard di marca, se andiamo noi. E basta. Adesso dovete erano altri tempi. Scusi, cazzo di moto vi sono dentro casa. Ma senza adesso là. E io. Anche entrate da 20 watt, ci sono quelli che sono fatti apposta, ma dipende sempre quanto è l'ingresso. 10 watt sono gli amplificatori già, 10 watt, capito? 10 watt, metter. Ecco qua. Questo è bello veramente sto coso, ma ci picchiamo. Ma c'è una cosa, che l'altro giorno sono andato diciamo quei cunicoli che portavano poi al castello, no? E c'era la guida turistica che stava illustrando appunto il tipo di muro eccetera eccetera, e ci ha fatto vedere che c'erano due buchi nel muro, uno rotondo e uno quadrato. Quello rotondo serviva per sparare verso l'alto al nemico che cercava di entrare nel castello, perché nel castello c'erano le prigioni per liberare i prigionieri. Mentre invece ha detto l'altro è la fumaiola. Cazzo, mi è venuto da ridere, ho pensato. Cazzo, quando hai detto c'era un buco, io ho detto ma quello era il buco di Falcone. La fumaiola, io pensavo che la fumaiola fosse la parola sbagliata, invece no, si chiama fumaiola. Già lo so già, però detto da quella persona là, noi ridevamo, però la fumaiola è giusto. Ma sapevo che si chiamava al maschile fumaiolo. No, no, fumaiola, fumaiola. Io non ho mai detto niente perché ci faceva ridere, però è così. Capito? È così. Perché sono due tipi di fumaiola. Cioè quella col pisello e quella con la patata. No, ma per dirti no, queste mura erano praticamente studiate in modo che il militare stesse coricato a pancia a terra e che puntasse il fucile verso l'alto. C'era proprio il disegno del coso in pendenza, no? In quei tempi era così sicuramente. Molto pompa, ci sì. Sono rientrato, so. Gianni Lupio. Ciao Gianni, Barrato. Poi lei si risentì. Oggi dovevamo fare un po' di cose, poi siamo andati da mia suocera e ci siamo trattenuti lì a parlare. Buonanotte. Io mi raddimo, quando esci quando in un'altra casa mi raddimo sempre. No, sei così. Quando vai a casa degli altri. Io guarda, oggi non mi sono mosso di casa, sono stato così bene, mi sono rilassato, domani mattina me ne vado al lavoro, faccio un girettino, penso intorno alle 10:30-11 di essere a casa, salvo complicazioni e basta. Stone Pedrosa, Valentino Rossi di nuovo a casino. Stamattina sei uscito? Sì, sono uscito. Sono uscito, sono andato a Piazza Alessandri, trovato a Giuseppe, poi è venuto Pierpaolo con Antonio, siamo andati a prenderci un caffè lì a Lume Sole, perché gli altri erano tutti chiusi. Poi loro se ne sono andati, sono sceso a Predanieta, prendere il giornale, sigarette, siamo andati a Fabrizio, mi ha raggiunto Fabrizio, che abbiamo preso l'aperitivo, due chiacchiere, ma a mezzogiorno e mezzo ero a casa. Allora io mi sono fatto il bagno stamattina, sono uscito, mi sono vestito, sono uscito, sono andato in chiesa perché Marco ha combinato un casino che dovevamo andare tutti insieme, tutta la famiglia, almeno per Natale, perché in chiesa adesso non è più moda andare, almeno per Natale, io prima ci andavo di domenica, immaginati tu. Per Natale di andare tutti insieme, invece ha telefonato un amico per farci gli auguri, ha risposto Marco, chi sei, chi non sei, e guarda che ti vogliamo a pranzo, e oggi ti vogliamo a pranzo, ci vieni. Lui gli ha detto chiedi la mamma, e cosa gli dicevamo di no? E ci ha bloccato tutto praticamente, alla fine anche se sono venuti ho detto scusate ma io stavo andando in chiesa, sono andato in chiesa, poi sono andato a trovare mia sorella e mi sono venuto da casa. E poi sbagliato anche strada. Ho sbagliato strada parlando al baracchino, ci sono uscito una strada per andare verso Iti eccetera eccetera, la via Mendola, e vabbè, ma poi ho trovato la rotatura, sono girato e sono ritrovato indietro, non è quel problema. Perché stavo chiacchierando e ho fatto quella strada lì, perché siccome molte volte per andare a Pordotole si passa da lì, no? Dico via Mendola, quando sono in giro, è cosa che devo andare a Pordotole, se prende il giro lì. Tu già hai detto per Natale, non per Pasqua. Per Natale? E vabbè. Ci siamo capiti. Io sì, mi sarebbe piaciuto tornare indietro di 3 mesi, 4 mesi, però purtroppo il tempo occorre, e quindi siamo a Pasqua. Io già brivi siamo, fra poco viene maggio, domani è 9, vedi sarada, va bene. Antonio, cosa stavo dicendo? Una cosa mi sono metticato, lo sai? No, ho scoperto come si fa per il vatto, Antonio. E baracchino, sì, la cazzata, c'è il più doppio, ma c'è, e poi dovete avere l'LC, modulazione, devi, a per parte, guarda, ho tanto fatto e c'è scritto tutto. Cazzo stai dicendo, per abbassare il vatto a questo baracchino esternamente, questo c'ha due potenze, siccome c'è scritto HI Love, Pigi però non agisce, allora bisogna schiacciare prima program, c'è la tastiera, schiacci prima program, poi schiacci bassa potenza o alta potenza, lo spegni e lo riaccendi, ed è a posto. Ah, io pensavo che volevo modificare il vatto, cosa del genere, da vento. Quella fabbrica deve essere simile a quello che c'è Luigi Vulcano allora, perché Luigi Vulcano doveva programmarlo, diciamo un barattino che doveva programmato, poi in fare era, si era scaricato la batteria di lui, è stato, non andava più in 200 km, andava solamente in 40, capito? Evidentemente quello è programmato così, il cambio questa la batteria di muro e si è a posto. Ti dico che c'è anche il processore. Comunque tornando a poco fa, Claudio, Pacca di Nardari si chiama Sassi. Pacca di Nardari, e via. Ma non ho capito perché. Boh, nemmeno io. Cioè sono due cose diverse, vabbè. Chi lo sa. Forse perché viene successivamente a Natale, non lo so. Forse sì, lo sai. Forse sì, Pacca di Nardari. Pacca di Nardari. Guarda, allora, così è senza processore, guarda. Guarda, va, così è senza processore. Speriamo che non sia da programmare. Pigio. E così è col processore, cambia. Che cambia, lascialo così. Così col processore inserito, più forte. Sì. Molto più forte. Ma che ratteggia? Eia. Se vogliamo te immagini di un baracchino. Sì. Regalato, molto bello. Nuovo, asciugante bello. Però non mi piace la luce, le luce. Sono gialline. Devo vedere se nel programma c'è, si può cambiare la luce. Se cambia colore, questa luce è gialla, non mi piace, è arancione, mi piace più o bianca o blu. Blu è bella, blu è il mio colore preferito, sia il mio che quello di Marco, tutti e due è il blu preferito. Anche a me piace un bel, no, la lampada ce l'ho blu, adesso domani, non martedì vado, mi compro la staffa alla GBC, dice che c'è la staffa, perché blu la mia non so dove l'ho messa. Così mi piazzo la staffa in macchina, il cavo alimentazione l'avevo già passato, ma la cazzata la batteria è dentro, figurati già, se tutte le batterie ci dai sotto il sedile, come la smart, è sotto il tappeto la batteria, c'è un vano sotto il sedile, sposti il sedile, sollevi questo tappo che c'è e c'è la batteria, ho preso i due cavi, li ho portati. Ce l'hai già alimentato dentro, non come te noi, non come te le altre macchine che devi passare, fare un casino. Così è il furgone mio, lo sai. Il furgone mio c'ha un vano sotto il tappetino e la batteria di sotto. Però per togliere questo vano bisogna smontarne, mi pare, una quindicina di viti. Un casino, eh. Infatti mi si è bloccato in strada il furgone, non metteva più moto e coso e non c'era corrente, non accendeva il quadro. E là sono andato a cercare la batteria, non la trovavo da nessuna parte. Ma cacchio, ho preso il libretto, ho controllato, poi ho visto che era lì. Ho alzato la fare e c'era il cavo, i cavi della batteria mollati dalla fabbrica. Può capitare. No, la mia non è di vitti. C'è un tappo in legno. Non so se il legno è in gomma dura, non so, nero. Sollevi quello e sotto c'è la batteria, capito? sugli occhiali, positivo o negativo, lo sotto il tappeto. Quello c'è un baracchino, lo attacco, boh, vai. La tenne già in macchina, l'ho piegata, e ci sta giusta, giusta, dentro la macchina, non sto lì, stacco solo il baracchino e me lo porto. Io vabbè, almeno quando esco la domenica, sabato, capita c'è la macchina mia, come oggi. C'ho il baracchino là. Non metto la fissa, lo faccio. La usa anche mia figlia, a volte inverte, prende la mia, prende la sua, no? Non fa, la sempre a lupo, anche se non c'è l'antenna, però sai, la parcheggia a Città Marcato, a Città Marcato ci sono troppi ladri. Ah, eccolo, c'è verde. Capo, ma ce la usa tua figlia con l'antenna a letto, devi usare qualcuno come ti va? No, l'antenna è coppa, non bisogna, già piega, sì, l'ho piegata, e tra un sedile e l'altro non si vede neanche l'antenna dietro. Ah, io pensavo che avessi messo dentro la macchina. Ah, non dargli la macchina con l'antenna a tua figlia, sennò viene il figlio di cosa, di K2, attenta. Il figlio di K2, sì. Esce da figlio di K2. Difficilmente fidanzata, mia figlia non ha problemi. Ci usava il bicino, fargli attento a non giocare il Google. Quanto stavo ridendo ieri, si becca, ascoltati Romagna. Bello come ha raccontato, io stamattina si è innamorato di questa ragazza che lavora a McDonald's, e lì dove fa quello? Lì ci sta mancato. E lì si è venuto, sì, in cosa, dove sono donato, da me che quella è capire di Claudia, perché la prende buona già. Poi aveva detto abita nella zona alta di Sassari, via la mappa, e tu mica via la mappa abito io. E poi mi è rimasto male, come? Via la mappa abito tu, e via la mappa abito io, qual è il problema? Una coincidenza. Ho detto, ma come si chiama? Chi è tuo figlio, come si chiama sta ragazza? Si chiama Sara. Poi ho chiesto a mia figlia, ma papà, da noi non ce n'è Sara, al McDonald's. Sappia io, non ce n'è, almeno che non sia l'ultima assunta, ma non si chiama Sara. Capite? Dice, non ce n'è, le conosco tutte le ragazze, ma figurati. Mi sento di travaglia lì. Ma al McDonald's di dove? Di Olbia. Ma no, Città Mercato, ma magari ti ha dato un nome così per non sgamarlo, capito? Non quella sgamava, non che a te te lo piglia ancora più da un vizzino. A parte il fatto che mia figlia non si fa vincere nessuno, non mi dici molto tenere, ma sto dicendo, più attento. Ce l'ho risate mi sono fatta rimane con la lezione oggi tu. Strano che non è entrata ancora Claudio. Ti stavo ascoltando io sì. Strano che ti si sono drizzati le antenne che andano in pista. Oh, mi faceva un po' ridere, no? Perché poi ho chiamato la radio, ho detto, senti che questo la sente sta fissando, ma chi è? È uno che sta cantando per te, cioè, come sta da lì? Di Nadara. E poi io ho collegato, sicuramente è proprio la fine del caso, perché se glielo fa il baracchino vuol dire che sa che lei sta ascoltando il baracchino, capito? Ho collegato questa studio. Io. Mamma mia come sto, è la bilivona. Ma la male non è andata a pizzicotto. Io mi sono fatto bene da sé io. Ma io non ti dico a Gianni che era già come te da ridire, la poi non ha ripreso più, ho detto ma Gianni è fisciato. Che io stavo già immaginando tutta la storia, ho detto che stavano, magari tu c'è il nome, perché ce l'hanno scritto, no, nel grembiule, nella divisa c'era scritto il nome, tu c'è il nome, magari ti seguisci. Ha detto pronto. Come l'ha raccontato, ti giuro che ero convinto che tuo vicino tua figlia, come l'ha raccontato? È invalito, vuole che l'accompagno di lì a Città Mercato, sì, ha fatto le buone che trova Claudio lì, ho detto. Da voi si è dottorato, voi non lo so, fa uno essere così in giro. Ma ti ha detto ragazzi? Grandetto già. Avrà presso 25, ma dicevo che sia. Non vado qua, boh, che racconta tutto questo che fate, boh. Ah, il radio mi fa morire, ma per chiarità. Allora, ma figlio in gamba, sono anche un bebè, io guarda, ho visto, cioè, una volta ho avuto modo di far cantare Manuela con lui e siamo andati in un paese, a Mores, c'era una festa e c'era Manuela e lui, tutti e due. E Manuela ha cantato e lui ha suonato la fisarmonica. Ma devi vedere come suona, cazzo, è un bel veloce, un bel bravo. E gli avevo sentito ieri un po' buccia d'arancio, era come forse era emozionato. Quella perché non è serenata. Stai sentendo, avevo cognato suonando, o già, o Iaia. Campione italiano mi ottavi. Ma io già vi sei molto. E allora? Fissavo di Banini e di Macchiroma. Ma te lo immagini che ogni giorno vado a mangiarsi il panino per vedere che c'è la benzina? Questo bagno si è ingrassato. Che ci stanno tutti i giorni, così ha detto stamattina, tutti i giorni in cenica andando, dice, se sere si mangia un paio, si prende la bibita, ha detto stanno tutto quello che dovevo venire in busta. Allora di quella lì a vedere domani il servizio, dice, come ha fatto questo ragazzo? A vedere i servizi di convincente, questo ragazzo così e così, chi dice cosa sta facendo, a chi sta aspettando? Quelli neri 1,75 sarà, 1,70. Ma cicciottello? Non è cicciottello, è robustello, robusto ma non cicciottello. Come la pezza mia già? Oh. Forse un po' più bassino. Mi sentite? Avanti. Vabbè, allora. Ma perché c'è questo bip iniziale? Non ho capito, no? Fa bip. Questa invece è sul lenni. E chi? Eccolo qua. Io non sento nessuno, so col baracchino, l'antenna piccola, mi sto usando il Galaxy, quello che mi hai dato tu, non esce bene. E niente. E niente che questo allora. Guarda, io mi ci qua mi ci viale. Come forte? Il bip non lo senti? Sì. C'è il bip inserito, ho scoperto anche come si abbassa la potenza, c'è un tastino, c'è scritto program, devi schiacciare quello e poi bassa o alta potenza, se non schiacci program non te lo dà. Capito, ascolta, come bene, molto molto bene, proprio radio bella piena. Dovete sentire come vi ascolto, c'è una colonia micidiale, una ricezione veramente veramente bella, ma bella veramente. Bravo, bravo, bravo. Che lungo, hai detto che non l'hai mai visto. No, non ci ho dato da nessuno. Questo è baracchino per parlare così. O questo o l'Alan 48. Vabbè, anche gli altri giro, però questo mi piace più di tutti. Perché c'è il frequenzimetro, c'è un bel canale, c'è 15 watt. Va bene, va bene. C'è lo Smith che lo vedo, capito? Ma legato, sì. Sì, me l'hai gatto, mi ha legato, quello dell'Intercat, c'è lo Smith bello grande, infatti tutti aperti, va bene. No, lo Smith è quello mio, ma quello è identico. Avanti, Brecchia. Brecchia, amici. Avanti. Buonasera, sono Patrano, non posso dire di usare. No, dire che non lo senti. Sì, ho scoppissimo, ma allora di 40 qua. Attaccare l'antenna, cazzo, già fra c'è rotto le balle con questo QRP. che un apparato militare. Un apparato militare adesso, se non fare lo spedizioso. Ah, Padrino, un gomolo, due l'apparato militare, 27 sempre con i baracchini. Fatti sentire, io non ti sento a carbonati. 95 radio 4 per me, già fa. Perché c'è la vita. Ce l'avete attaccato. Fatto apposta per brevissime distanze. Cosa fate da una porta all'altra? Non arriva qua. Come è quello che chiama Volleco qua? Dove si trova? Che cosa? Come chiama Volleco la povertà? Dove si trova? Ah, Bonorba. Attenzione Bonorba, mi ascolti? Attenzione Bonorba, ascolti il Buduso. Sei d'ambolato lì. Dove è là? Si va a vedere, oh, non ho già problemi. Io non sento niente, Luca, sono col baracchino piccolo, ho due vatte e mezzo. Io non so se lui mi sente, ma io non lo sento. Devo cambiare radio, cambiare antenna, non lo sento. Beh, mi sente, Luca? Attenzione, Buduso, ascolti l'audio. È buono. Capito? In compenso funziona bene in banda bassissima, capito? Sui 7 eccetera. Sono quelli che hanno l'antenna attaccata praticamente, tutto il blocco con l'antenna attaccata. Esatto, quelli lì. Quelli da zaino, con batteria interna. Ok. Il vicino un attimino sul 15, grazie. Ciao Claudio, buona ancora auguri a tutti. Anche a partire, tanti auguri. Vediamo un pochettino di riordinare questo canale perché è un po' un casino. Luca, riprendi, dai, e ti saluto e tanti auguri perché ci siamo sentiti avanti. Anche a te, Gianni, famiglia. Allora, qua lo mettiamo a posto, mi ripeto. Si è spostato con Gianfranco sul 15, ma non siamo noi che stiamo facendo casino, è il tuo capo di minchia. Poi se parla lui, poi parla quell'altro, non si occupa di una parte, no? O mettiamo in ordine, o canile, oppure come ripetito. A volte, guarda, si chiude lo squelci, va, questo baracchino c'ha uno squelci micidiale, chiuso, esce a vedersi i sabri, parlate a vedere. Pure a me. Ciao, ciao. rottura di coglioni. Tu. Vai, fiaschetto. Vai, mettiamo un po' d'ordine, cara. Mettiamo un po' d'ordine, io moro. Io, attenzione, coloro, come mi ascolti. Segnale è radio, segnale è radio. Avanti, 1, 2, 3, 7, 40, 50. Cazzo, se tu lo chiami, sei fregato. Non te lo devo mai arrivo, poi le cose, ma gli occhi, l'intenna, lì poi, no? Ti dice di andare a trovarlo, eccetera, eccetera. Sto parlando con questo Matteo, che hai detto Matteo? Ci va più limone, non è problema. Se la devi usare la giacca la viga, io bisogna che fa vedo, cazzo, sotto all'uno. L'amica tua che è innamorata e ti chiama sempre, cosa ci posso fare? Chiama sempre, Claudio, mi ascolti Claudio, cambia antenna. Io gli ho il nome di la Trombelli, ma poi tu hai Gianni Capri 2, io ancora vediamo Gianni Capri 2. Domani tutti a McDonald's. Domani a panini, l'americana. E bere Coca-Cola. Ma no, mi fai mezzo pugnettone, c'è vitrino. Mi aggassino, bubù. Cazzo, lu, bella di ribacca. Cazzo, ma li vuoi andare a riprendere uovo? Ciu, ciu. Tutto ci vuole, se mi spiego ora anch'io là, mi dà il che mi dico come fanno un pugnettone e allora tu come mi Antonello lo conosce, vero Antonello Motopompa? No, non lo conosco perché è il figlio, la verità, o anche a lui, ma non conosco il figlio. Se avete conosciuto la verità, diretta, io ti accompagno qua così gli mettiamo il picchetto d'onore. Pare che c'ha le cifre in mare. Tu voglio che ce ne giovanna più, riesco. Tu immagini che ti cazzo già c'era la rovaccone, invece di punire un capo, punire un guru. Non sai cosa fare, lui dice insomma in antichi dell'anno 3 fare. No. Mi credi tu, no? Pare uno di chi si... Ma è presente chi si dell'anno, degli anni 20? Forse è Edo. Non lo conosco io, no? Tu presente? Non ti dico Paolo, no? Tu, non lo conosco io. Ok, beh, ti ho fatto che... Allora. Ciao Maria, che stavo pigliando a Monaci? Ah, vero. Ti piglia... No, ma la facchetta te il viso. Io sto in ascolto, Che si è fatto l'abbonamento a Gramo Plus, no? Mi, attenzione, Falchetto, guarda che ti stanno chiamando. E dopo il fulgore, no? A pigliare il culo, come si fa per abbassare i fatti, adesso già va bene. Meno spazio che ti immagini, già bene, va bene. Ah, vedi, forte c'è, mi forte. Oh, Antonello Motopompa, a che cazzo gira la direttiva, a vedere se lo senti. Io non lo sento, davvero. Sì, per sentire una cosa. Non è venuto? L'utente da me chiamato, non è più di sentirla. Infatti la prego di non massacrargli più i coglioni. Grazie. Aspetta un attimo, c'è un telefono che... aspetta, ti faccio vedere. Senti, devo vedere. Ecco qua, senti. Benvenuto. L'utente da lei chiamato non ne può più di sentirla e la prega di non massacrargli più i coglioni. Grazie. Ho capito. Doppio root. Mi hai occupato il posto in squadra, mio figlio. Ehi, sono a casa. E tu che hai troncato? La macchina con 4 e Ha Roma Bullu a chi niente. Abbiamo visto quel pezzo. Ma che uomo, che da vicino, capito? E invece, beh, chi tu, per quello che non lo vuole. Sì, questa massa, vedi varia. Doppio root, non è tu a farci ascoltare. Sì, già ne ho, ma mi tocca alzarmi dal letto, su qui è bucato. Già ne ho, sì. Andare su YouTube e vedi, scrivi aspirina e quindi tanti di voi. Già lo so. No, ma io ne ho anche altri, c'ho quella dell'uccello, c'ho quella dell'uccello della chiesa, non so se l'avete mai sentita, che c'è il bubbo. Sì, sì. Dell'uccello? E cosa fa? Che c'è il prete, praticamente entra un uccello in chiesa e il prete dice questa donna se lo prende e se lo mette nel petto al caldo, no? E poi il prete dice chi ha l'uccello esca fuori dalla chiesa, e allora tutti i giorni sono usciti fuori, no? Poi dice vabbè, comunque praticamente chi ha preso l'uccello in chiesa, no, avete capito male, chi ha preso l'uccello in chiesa deve uscire fuori. E una coppia che stavano facevamo in chiesa dice, visto che l'avevo detto che ci vedeva. Intendi, ciao Remy, sono l'amore tuo, eh? Io ci ho sognato a te. Ma quando sei invitata, è stata una specie di incubo. Perché se non me ne dai, manco leva di l'orte sti forti miei, muore in miseria. E cosa l'ha telefonata? E che pensi? Ma che c'è? Babbo, dai, siamo la polizia, va, riprendi qua. Vedi, ha so cose belle quelle. Già so così venti. Uia, come sto? Fa che. Sì, vabbè. Nel mio, nel tuo, nel tuo, come ti siete bella per quello, perché ogni tanto si fa anche scazziare. Ci mancherebbe altro. Eh beh, a me massi delle mummie, no? Ogni tanto già fa bene, l'importante non approfittarne. C'è sempre qualche imbecille che ascolta, che non le fa piacere, capito? Non ti pulisci il dappo in bocca. Antonella, motocompa. Dicchiami, sono qua. Sono tutti ascolto bene con questo barracchino, beh. Sì, vuol dire, sono vicino. Anche. Stavo ascoltando, se in quella frequenza 585 stava la manda, c'era uno che stava la dura Benito, adesso mi ripeto un sorridi. Anche lì stasera stavano schiando, facendo un sacco di casino. Che roba? 6585 stavo scazziando di brutto stasera. C'era uno che mandava Benito, poi c'era quello che mandava le... Però ho fatto sentire la musica. Ah, i 45 metri? Lì sono così. Lì sono fatti così, non hai capito? Lì sono nati per fare casino, boh. Non c'è niente da fare, no? Ma lì si erano spostati 10 km più avanti e stavano parlando... Io non so, mai... una volta di 7-8 persone. Che non riesce a dire, non so chi era, è stato a casa chi era. E dove? Cioè lì nel, in quella frequenza lì? Yeah, da 5.85 sono passati a 5.95. C'era un, è entrato uno ISO 0, non so chi, poi ISO 0 Pietro che si è presentato, non so chi sia. Quello lì è andato in 80 metri quella. Vicine a... Via. Si va via rivenite anche invece di vari gocci, per carità. Antonio Bombolo, riprendi, cambio. Cazzo gli è andato, Antonio, pigliate la spiriga. Sai come sarebbe bello per metterci quella cosa che ho preso poco fa. In un cuore ponte radio ne va bene a mettere, quando schiacciamo la portante. Ha sentito una cosa mangiata, immagini. Che bella bella quella registrazione, però non la devi fare avere. Te la faccio avere, non ti preoccupare, te la faccio avere. Te la carichi, se c'è il Bluetooth te la carichi tranquillamente dal telefono al tuo. No, ce l'ho Bluetooth, ho Bluetooth, faccio. Se per carità che ci vuole Bluetooth per forza. Oh, questi due telefoni che ho, un esatto sono dei due telefonini tre, sono i primi usciti che facevano la sono Marlosoni, facevano la videochiamata, fanno anche. E c'era. Ne avevano regalato tre addirittura, due ne avevano regalati e mi erano rimasti questi due. Figura di due. E a poco li filmati strani, dai belli, di due. C'è un registro, c'è problema. Riprendi già. Continuate, io ascolto. Non mi piacciono queste gobule qua. Ti piacciono? Sì, mi piacciono. Ah, ti vado a prendere il telefono e cerco un aiuto. Ecco, basta. No, quanto non era bella, ma ci picchiere. Che Dio la volte di niente, va presente e della televisione. Ah, mi stai dicendo le balle. Sì, ogni tanto mi esco fuori di testa anche lì, ma non c'è che tu provi i denti. E della televisione. Ma dai non voglio c'è. Mi papà. Già non dico. 5 provvisorio. Ah, io ho preso anche il provvisorio. Ah, allora Giovanni Giacomo c'è il canale 5. No, mi. Allora Giovanni Giacomo c'è il canale 5. Ah, io pronto. Io, manda. non so. Tu non stai portando, non scappava più ieri. Non le fate molto lunghe per i finali che scaldano un bel roccio. Quella tua qual è, Lu? La mia viola. La canzone, non è la tua canzone. YouTube sono qua. Ah, YouTube. Oi, oi, oi, Bob e Marley. Roberto Lobetto. Non c'è più dice Roberto Quadrato, adesso sta studiando alla grande. E magari sta ascoltando un'altra frequenza. Sì, io frequenza. Sta ascoltando. Se non vuoi mai giungere. No. Non c'è mai nessuno, no? Tutto spento. Anche io sono 14 meno 10. 10 13 di noca gioco. Falchetto, ma dove sei? Sono sempre qua. Sì, cambiava un po' le parole della canzone, ma era abbastanza comprensibile. Dimmi, diciamo. Io non sento niente, c'ho QRM a zero, così bello sto barracchino. Buono, buono. Buono. Sì, sono a pochi watt. Oh, è abbastanza chiarissimo. Stavo in un momento, quando se lo due watti. Esci. Forte. Bella. Aumenta. E cavolo. Non ti ha detto più rotto. Oh, va, non stavo guardando, però dico la verità. Guarda, guarda, da così a così aumenta. Certo che aumenta. Il sole secca la fica, la la la la la la. Guarda, ti stavano chiamando. A me? No, c'ho lo squelci. C'ho lo squelci inserito. L'antenna piccola è 4 watt. Guarda, no? Sento? La. Parlo io. E cosa parlo? Sono con un 4 watt dell'antenna piccola. Se mi sentite va bene, se non mi sentite pazienza. Sono tutto sfasciato e sento solo le modulazioni forti. Prova Luca. Sì, vai, io lo prendo. Con che apparato sei, Claudio? Col Galaxy, col baracchino, il watt del baracchino. Ma come vai mi sei in giro? Vai con un Kenwood. Cazzo, ma un bipi lo intendi già? Se c'è il bipi, il Kenwood, il bipi già. No, ha ragione, ce l'hai, però la modulazione è uguale. Non so, ma c'è il bipi però, io non ho il bipi nel Kenwood. L'ho lasciato apposta il bipi, per favore, che sono col barracchino. Luca, vero, non sembra col Kenwood. Ah, questo è forte. Cioè, va bene. Ma tu esci ancora più forte. Lo so, comunque, lui esce più forte. Capito, ma perché mi stai dando? Ma si è... Se ne sta a posto adesso, va bene, non c'è problemi. Baracchino? No, non aveva problemi, no. Cioè la batteria al litio deve essere un pochino e non tiene le memorie. E quando lo spegni se ne va a 26 mega. Ma sta a toccare il tasto program, lo rimetti a 27, non succede niente. 27.075.00. Cazzo, ma lo frequenti metro 1.340. Vabbè, a me praticamente lo mettevo in frequenza. Tipo 27.075.00. Dopo un po' mi si può fare da solo. Adesso non so se ha detto lo sta facendo. Anche perché c'avevi lo scanner inserito. Capito, bisogna toglierlo. Io no, io l'ho visto subito, l'ho studiato subito, è perfetto. No, andare lì sul logo. Non va a nessun posto. C'è lo shift. Puoi programmare in automatico, poi programmarlo manualmente, c'ha 100 memorie, hai capito? Ha 100 memorie che trova la china. Parte da 26? Parte da 25, 200 a 32 MHz. Punto frequenzimetro. Non ci ha, questo sembra parecchio, buffone di... Caspitina, la vera, per i bussi. Io quando l'ho visto ho letto Galaxy, nella scatola, ho detto cazzo, pensavo che era un Galaxy Pluto, e invece è ancora più forte del Galaxy Pluto questo. Ma va bene, dai, dai, dai. E poi di nuovo c'hai i tappi fiammanti. Infatti, stavo pensando se magari non lo compravi tu, che magari lo... Vabbè, no, a uno, a qualche altro, a gente di noi. Li cambia quei dati, mette quei miei, prendevo quelli, ma sono uguali. Sembra il mio risultato è nuovo. Se nuovo, nuovo, lo fatto luce al cruscotto. Diventa Peruccio Luccio. Qui c'è la tastiera tutta illuminata in verde, capito? È bella, una bella radio, già va bene. Per l'uso che ne faccio io già va bene. Chi è che chiama Claudio basso basso? Avanti! capito chi sei, c'ho l'antenna girata da un'altra parte, è il baracchino piccolo, sono coricato, sono a letto, con l'influenza, chi è? Gennaro, oi Gennaro, buonasera, ma io ti ascolto basso basso, ti ascolto pio pio. Hai capito Gennaro, ti ascolto pio pio, sono a letto col barracchino, ho capito, col barracchino piccolino. Cambia la britella, non ho capito, cambia la britella? A cambiare la britella, cos'è questa britella? Ah Gennaro, mi ascolti? Può cambiare antenna, io sono coricato, cazzo me ne frega l'antenna a me, sono coricato, sono a letto, hai capito? Sono a letto con l'antenna di gomma. L'antenna di gomma, l'antenna di gomma, capito? Questa è un'antenna di gomma autocostruita per parlare in città, capito? Mamma mia. Ce l'ho attaccata allo scaldabagno con la base magnetica. Quando apri il rubinetto ti misura le stazionarie. Chi è questo che sta parlando? Lo leggo, chi è? Vabbè Genna, io sono a letto comunque, dai, sto parlando con questi di Sassari, capito? Sono a letto, sto parlando qua in questo locale, avanti Gianni lo più non ripeti. Saluto anch'io Gennaro, ciao Gennaro. Riprendi o coso? Falche, riprendi tu dai. Ehi. E che di? Mi sa che io salo. Mi auguro una buona notte a tutti, e mi chiederò. Non ti sta chiamando nessuno, Gennaro, non ti sta chiamando nessuno. Avanti, Luca. Oh Gianni, ma non hai altri canali da andare a chiamare Gennaro? Proprio qua devi venire. No, sono io. Ma Gianni, di Chiaramonte ti sto dicendo. E qua c'è un quesito, tu stai rompendo le palle. Perché? E boh, che ti sciugato di ecco, parla una bappera. Riprendi, Luca. Questo locale e ne stanno a rompere i coglioni. Ma che c'hai tu? Oh, fate una cosa, spostatevi tutte e due invece, che state facendo solo casino. Grazie di aro. E cosa stavi dicendo, Luca? Faccio la letta. Ma prova a farmelo sentire, vabbè. Casino stasera, tanto per festeggiare la Pasqua. Io dico vabbè, infatti non mi tiro a rompere le palle, capito? Non siamo in questione per i frati nostri, non c'è problema. Devono entrare con un break, o se vogliono fare questione normale entrano con un break, ma se c'è sempre giamenti, mamma mia. E poi ci vuole burlare in umano a giocare un letto. A farlo ancora mi fa vedere, per carità del Dio. E vabbè, mi tieni il gabbo di fuma. Chi c'era rimasto in Parigi? E c'è Luca Falchetto, io sono passato l'altra antenna adesso. Mi vedo viva, mi tieni il gabbo di fuma, vero? Sono tornato. Cazzo mia bomba, non mi sei dato di giro. Stavo a soltanto per le dichiarazioni, sono soltanto. E allora ho abbassato un attimo il volume per ascoltare quello che sta facendo. Capito, cosa hai detto, Gennaro? Per mezza di coglione. E ti stai dicendo che ti danno fastidio? E tu devi parlare quando ti rilanciano il microfono, devi stare sempre chiamando, capito? Il problema è quello, Gennaro, se tu chiami, a me mi arrivi 9 più 10, non mi arrivi come arrivi agli altri, mi arrivi 9 più 10, io non sento niente se tu stai sempre chiamando. Quando si è in un canale, te l'ho già spiegato, si sta nel QSO, si partecipa al QSO e quando ti rilanciano il microfono devi parlare, non parlare per i cazzi tuoi. Non li senti, Gennaro, tu non li senti, hai capito? Tu senti solo a me e a Falchetto, però c'è altra gente qua a Sassari che sta parlando e se tu ti metti a gridare con quell'eco alle 11 di notte io non capisco niente, allora non ti rispondo più, capito? Devi parlare quando ti rilanciano il microfono, te l'ho già detto, se no io non ti rispondo più. Spero che l'abbia capito, la stessa cosa fa il Falchetto, se sta parlando con un altro non può rispondere a te, se tu non senti non è colpa mia, hai capito Gennaro, nessuno ti sta dicendo che sei maleducato, devi imparare a usare la radio come i cristiani, non si sta a voci sempre chiamando la gente, se la gente non ti risponde vuol dire che sta rispondendo ad un'altra persona che tu non senti, tutto qua. Un vecchio moderatore. Ascolta Gennaro, io ho 52 anni, non sono un ragazzino, quindi non stai parlando con un biscuano, ok? Stai parlando a una persona che fa radio dall'età di 14 anni, va bene? Quindi penso che le regole conosco prima di te e meglio di te. Tu stai sempre a voci, se la gente non ti risponde vuol dire che non ti sente, non ti può rispondere perché sta parlando con persone che tu non senti. Ogni volta che io ti sento continuo a dirti un attimo Gennaro, stanno parlando, un attimo Gennaro e tu continui a parlare sopra, dimmi che cosa devo fare. Non rispondi. Guarda Gennaro, adesso ti dai cioè siamo educato. Poi la seconda cosa te l'ho già detto, alle 11 e mezza di notte tu non puoi stare a voci con questo eco, perché noi siamo tutti in cuffie per non disturbare la famiglia, capito? Io non so dove tu sei e dove hai il baracchino, ma se tu ti metti a voce alle 11 e mezza di notte, alle 11 e un quarto di notte, a noi ci fai sordo con le cuffie, te l'ho già detto l'altro giorno, o lo abbassi questo eco, o lo togli se vuoi parlare con noi a quest'ora. Di giorno puoi fare quello che ti piace, ma io le cuffie le devo tenere nelle orecchie, non me le posso togliere ogni volta che parli tu, rendo l'idea. Stai ancora riflettendo, e ogni tanto sparisci. Ma i tuoi problemi non si scaricano alla radio, caro Gennaro. E se tu non mi vuoi capire quello che sto dicendo, allora non so più cosa dirti. Ti ho già detto da ieri, a una certa ora questo eco lo devi togliere, perché fai la gente sorda, cioè sono le 11 e un quarto di notte. Io ho le cuffie, i miei colleghi qua hanno le cuffie, per non disturbare la famiglia, e tu continui a gridare. Te l'ho detto anche ieri, che cosa te lo devo scrivere? Non so, fai quello che vuoi, io non so cosa dirti. Io parlo come mangio, capito? Te l'ho già detto e te lo continuo a ripetere. Quando non ti rispondono vuol dire che stanno parlando, la gente non ti sente, non ti può rispondere se stanno parlando qua a Sassari. Qua c'è gente che parla con le antenne piccole, capito? Io sono passato a un'antenna grande perché tu sei a voci e continui a chiamare e allora io ho commutato l'antenna, ma se io uso l'antenna piccola non ti sento, hai capito sì o no? Anche ieri mi ha detto che avevi capito, va bene, allora io ripasso nuovamente con l'antenna piccola, chi mi sente, chi non mi sente non mi interessa un cazzo, ecco qua, va bene, allora chi è che c'era, chi è rimasto qua? Riprendi Antonio Bombolo. Ma forse lui cosa dice? No, non ho capito. Cosa deve dire? Si stava offendendo perché io gli ho detto cosa, ma cosa la devo dire? Se continua a chiamare e non rispondete perché sta parlando altra gente, che devo dire? Non posso stare lì, poi ci mette anche quell'altro a usare l'eco, a fanculo, abbiamo brutto. Cazzo di diavolo. passa per un po' fuori, no, non va più bene, non va. Ah, con quella piccola non lo senti? Sì, non lo sento. Non lo sento. Vabbè, e che te devo fare? Ma che ci sia ancora? Io sento una salutata, passate una buona notte, mo tutto. E ci si riascolta. Io fa che ti auguro la buonanotte, vai. Ci sentiamo le prossime, stammi bene. E buonanotte, ti ha salutato anche Gennaro poco fa, non so se l'hai sentito. Poi chi c'è rimasto? Luca, ci sei? Pazienza che devo, cazzo. Ma pazienza che ci vuole pazienza, per carità di Dio, ci vuole molta pazienza veramente. Cioè sei qua e stai parlando tranquillo e sereno, e ogni volta sempre le solite cose, sempre le solite cose, ripetere sempre le solite cose, ma va bene, va bene, alla fine cambiamo canale, ce ne andiamo nei canali sotto l'uno, così nessuno rompe le palle. Lasciamo i canali normali agli altri, così possono fare quello che le pare piace. Ma perché? Perché bisogna arrivare a quello? Fa uno che da quel punto di fuori lui non riesce a capirlo. Fa fare così come è fatto adesso, lasciare, lo ignori. Basta, gliel'abbiamo detto tante volte, non c'è verso, cazzo. Chi è che vuole entrare avanti? Ogni volta devo commutare l'antenna. Stava parlando Antonio Bombolo, per chi non l'ha sentito. Chi è che vuole entrare? Scusa, pensavo che non c'era niente. Non lo sento. Ignora, Claudio, ignora. Sì, cazzo, ignora, fra. Ogni volta si muore, ma te si chiudi, no? 40 anni di radio ancora non hanno capito niente. Sì, vabbè, magari all'inizio quello lì. E si mette lì anche allora. Vabbè, ma quando lo so lo cerca la viglia, la bui, alla fine cosa devi fare? Non lo so, dimmi tu. Vabbè, io non lo so questo mio, se uno glielo ripeto 2, 3, 4 volte, non lo comprendo. Ah, dire così, Claudio, bisogna lasciare la pizza e basta. Io voglio fare radio, ma anche ogni sera devo stare lì a bisticciare con la gente. E ce ne sono tanti canali. Se uno deve stare a fare questo locale, fa di questo locale. Non è che deve stare lì a bisticciare con la gente. Cosa stai usando, fra? Quella radio là? Sì, sempre la stessa. E arrivi bene adesso? Abbiamo parato l'antenna con Vanino, abbiamo parato, adesso sembra che stia andando bene. Infatti adesso sto decidendo di metterla, di chiudere l'antenna e metterla a operare. La posizione che avevo prima una volta, che lì era migliore. Ma non c'hai la mantova, c'hai l'antenna piccola. No, c'è la mantova, è stata molto. E allora metterla nella posizione che era prima. Devo rifarli tutte le gaffe, tutto da capo, come sto aspettando devo fare un muro a fianco, e come finisco quello lì la rimetto lì. Allora sicuramente va molto bene. No, questo baracchino ti ascolto benissimo, non c'è un problema. Allora, amico, ascoltavo abbastanza bene qui. Qualsiasi che tu ci metta lì ti ascolto sempre bene. Sì, questo è un baracchino che ci aveva a braccio di ferro, per capirci, lo sto usando col tanne più 3, non c'era manco un microfono normale, comunque già ne ho un microfono, non c'è problema. Bomboli, questo è Franco da Sosso, capite? Ma lo sento basso, lo sento. È il posto di 27, però non lo senti fra a Bomboli, no? Ho visto un che si muoveva dal 3 al 5, però negativo, non capisco cosa dice. Vabbè, lui c'ha un'antenna piccola, infatti poco fa eravamo tutti con le antenne piccole, proprio perché eravamo in questo locale, capito? Tutto lì. c'è più. Luca lì. Luca, se ne è andato. La foto, tutto il casino che succede, è chiaro che la gente se ne va. Che discorsi sono. Cioè, stavamo scattando, vivendo, ascoltando musica, mettendo registrazioni di battute di media globali, a voi succede sempre brutto, per carità, guarda. Alla fine uno si stufa e manda tutti a cagare. Ma che sei meschinità, ma che sei, come si dice, per questi qua non ne vale manco la pena, Claudio. Dovremmo ignorarli e basta, basta ignorarli e boh, come si è sempre fatto. Non è che vabbè, quando li ignori poi non fa vedere più, non si vedrà. Va bene, va bene. E Vannino non si è sentito stasera fra. Io sono rientrato adesso, sono rientrato, ero un po' giorno. E infatti quando rientrando accendendo ho sentito voi. Ma ci sono più o meno 20 minuti. No, io mi ho commutato adesso l'altra antenna. Stavo usando quell'antenna che uso qua in città. Visto per fare due chiacchiere, e basta. Poi ho sentito Gennaro che stava chiamando, allora ho commutato l'antenna, se no quell'altra antenna non lo sento io, capite? Perché quella direttiva, quella protezione orizzontale, e quindi ce l'ho puntata verso nord, quella zona lì, e allora no, lo prendo di riflesso, sentivo qualcosa parlare, ma non capivo chi era. Invece con questa mi era disordine. Sì, la Bonova che ti fa ricco, tu vedi? La Bonova fa? Ho detto la Bonova ti dà così fastidio quando attacca. Un buffone dici, guarda, se non attacca Antonio Bombolo, tu, Vannino, tutti quelli di fuori, Sandro, se non attacca, tutti, ma di soprannome a tutti. Aspetta. Pensavo che non è neanche molto vicino, ma è un pochettino distante. Sì, fra, ma io sono qua su, sopra la collina, e a rispetto di altre zone ce l'ho davanti, capito? Arriva 9:10, poi c'è una radio micidiale che si fascia le orecchie, e quindi sappiamo qua tutti, capito? Perciò per quello gliel'ho detto, non è che ce l'ho con lui, lo sa, per carità. Perché lui magari non sente a voi quando parlate in città e quindi si mette a chiamare sovramudo. Tutto qua. Gennaro, ancora ci sei? Lo senti a Franco? No? Neanche a Bombo lo senti, a nessuno senti, solo a me. Hai visto? E lì il problema, che sembra che io sto parlando da solo. E invece sto parlando con un'altra gente. Hai capito che ti ho detto? Ti ho detto che sembra che stia parlando da solo io. E ti ho capito, ma è quello il problema, ti ho detto. Che quando tu non senti, che io, che senti solo a me, chiami però tu mi sovramoduli quelli che io sto ascoltando qua a Sassari, capito? Stai arrivando 9:10 qua a casa mia, non sei potente, non te l'ho già detto Gennaro, te l'ho già detto, arrivi molto, ma molto più forte di gente che da Sorso, da Porto Torres, qualcuno anche da Sassari. Se Antonio Bombolo sta parlando e non c'ha l'amplificatore attaccato, lo superi, hai capito sì o no? No, è proprio la posizione che ci abbiamo uno con l'altro, capito, siamo di fronte. Non c'è problema, capito? Non c'è problema di altre cose. È che io ti ricevo molto, molto forte. La connessione. va bene, comunque non ti preoccupare, non è successo niente. Quando mi senti che non senti gli altri, aspetta, ti rilancio io, se no facciamo solo casino. E dove devi andare? A dormire. Di nuovo a Napoli devi andare. Fuori, fuori, fuori zona. All'estero. A Londra, a trovare la regina Elisabetta. Guarda, un capo. Ehi, quella è una bella donna, Gennà, non ti innamorare. Lineare che c'hai tu, quello si crepa in due. quindi c'hai 200 watt in più, il magnum ne ha 100, cosa vuoi fare? Uno dei migliori apparati al mondo, guarda, non ci sono problemi. E secondo me qualità prezzo è il miglior baracchino, perché è sempre un baracchino, il migliore al mondo, non ce n'è che superano quella radio, capito? Però quella tu la puoi usare solo, esclusivamente con la potenza del baracchino, mica glielo puoi attaccare lineare. Se attacchi lineare devi mettere i watt che stai usando con questo, quindi 4 watt, 5 watt, e allora hai sempre 300 watt, capito? Hai sempre 300 watt. A cosa serve comprare il magnum? Non ho capito. Lo so Gennà, lo so, è un ottimo baracchino, non ci sono problemi. Io ce l'avevo e l'ho dato a Luigi Vulcano perché me l'aveva dato lui e poi gliel'ho ritornato, l'ha venduto e io mi sono comprato un altro HF, perché avere un baracchino come il magnum per me non mi interessa, capito? Non mi interessa, è un bellissimo baracchino per carità, però io non ne facevo niente. Non sono abituato ai baracchini, io questo lo sto usando perché lo sto provando, è un baracchino che ho comprato in blocco assieme a questo lineare e quindi lo sto provando, sembra che vada molto bene. Però di solito io uso sempre o l'Alan 48 con l'Echo, a quest'ora no, di giorno, oppure uso sempre gli HF, capito? Adesso quando è pronto questo amplificatore userò l'Alan 48 chiuso col Tame più 3 più l'amplificatore, poi te lo faccio sentire. Sì sì, va a 13,8 anche quello, mica diverso dagli altri, va così e funziona molto bene. No Gennà, il magnum lo devi ordinare dal continente, non ne hanno qua in Sardegna, non ne hanno. La Tecnocomunicazione mi chiamare, sì, ce l'hanno, sono concessionari loro, capito? Sono concessionari loro, l'ordine da lì è garantito e non hai problemi. Sì, lo puoi usare a 100 watt senza lineare, capito? Hai la modulazione simile a questa, va molto bene, è un bellissimo baracchino, un bellissimo apparato CB, va molto molto bene, però lo devi usare senza lineare. Se lo usi con lineare devi praticamente abbassare la potenza almeno a 6-7 watt, non di più. Devi abbassare né dall'alimentatore né dal lineare, devi abbassarlo dal baracchino, i watt si abbassano dal baracchino Gennà, dall'alimentatore si abbassano i volts e dal lineare si abbassano i watt, però se tu hai i watt bassi del baracchino che vanno sul lineare non c'è bisogno di toccare né lineare né niente, tocchi solo i watt del baracchino e l'alimentatore lo devi lasciare sempre a 13,8. Certo, 3,8 e poi non devi sorpassare la tacca rossa, perché quella rossa, ti ho detto, dell'alimentatore, il livello di guardia, che significa che sei fuori alimentazione 13, quindi sei già a 14,5, 15, capito? Perché gli alimentatori switching, te l'ho già spiegato, se tu fai la prova col tester, con il VOLS, metti il tester in VOLS e controlli sulla tacchetta rossa da 14,5, quindi è troppo alto per il baracchino, lo puoi bruciare. Tu l'importante è che non superi la tacca rossa e poi non hai nessun problema. C'è scritto watt, c'è scritto PVR che vuol dire watt, power, ok? C'è un pulsantino, c'è scritto power, tu abbassi quello e lo porti col wattmetro a 10 watt, 8 watt e vedrai che il lineare non ti dà nessun problema. Gennà, io ti do un consiglio, per me, per l'uso che ne stai facendo tu del baracchino va bene quello che hai, poi se hai soldi da spendere, da investire, lo puoi anche comprare, ti ripeto, è un ottimo baracchino. baracchino per la CB, un ottimo apparato CB, perché baracchino è brutto chiamarlo, è un apparato CB di buona stazza, io l'ho avuto ed è un buonissimo apparato, il 9 mi pare, va molto molto bene, il costo chiaramente è alto perché con quei soldi compri un HF, compri un bel 140, un bel 680 che c'ha 100 watt lo stesso, però c'è la sintonia continua, non a canali, tu giri la manopola e vai dove ti pare ti piace. Claudio, e tu? Se può chiudere, vai, ce la ricevamo domani alle prossime, sono un po' stanchino, io ho più voglia con palazzo d'acqua. Ok, aspetta Gennaro, buonanotte, ce la ricevamo domani alle prossime, dai. Ok bomboli, dai, ci sentiamo domani, ciao, buonanotte. Anch'io fra un po' faccio le chiacchiere con Gennaro, poi chiudo anch'io. C'era Franco, fra, ci sei ancora? Sì, dai. Sì, non lo sento a Gennaro, neanche a Bombo lo sento. Comunque, saluto a Bombo, e lui, Antonio Bombo, se non sbaglio. Ok, ciao ciao a tutti. Io ti ho salutato, fra, stava chiudendo Bombo. Sì, ma saluti anche a lui. Dimmi una cosa, Claudio. Ma sono quei due hai preso? Sono quello che aveva. Mi ha dato questo Galaxy... cazzo, non ricordo mai il nome, vabbè, Uranus, una cosa del genere, che è molto bello, è tutto digitale, con la tastiera, fa da 25 a 32 MHz, watt sono regolabili, da 5 a 25, adesso infatti ce l'ho a 25, e poi questo amplificatore che ha praticamente due resistenze bruciate, che sono quelle che pilotano le valvole, sicuramente gli ha dato troppo ingresso e quindi li ha bruciati. Adesso le cambio queste due resistenze e poi le valvole le ho già pulite, le mie erano tutto pulito, aspirato, perché era molto nel garage dentro, però è nuovo nuovo esteticamente, e basta, non mi ha dato altro, fra. Ecco, poi pensavo c'era più roba, c'è... l'ignore non sapevo che era prima, l'ultima volta che l'ha usato, gli ha dato molto ingresso e l'ha partito. L'ignore lo sapevo già. Però l'apparato era partito, quello lì che stai usando è l'ultimo che hai comprato. È bello, no? Io non lo conoscevo, la verità, fra questo baracchino. No, allora ti posso dire, io con Giovannino ero già in contatto almeno più di un anno, solo che tutte le volte mi trovavo a sorso, non avevo il tempo per andare a ritirarmi questa roba. È capitato ieri che è salito a casa del fratello, da Luca, e si è messo tutto in macchina. Luca mi ha chiamato, mi ha detto, guarda, c'è Giovannino, c'è tutta la roba che ti avevo detto, se vuoi venire a vederla. Sono andato a vederla e gli ho detto quanto voleva, 150 euro, ho fatto l'affare. Ho preso questo baracchino, il lineare, poi c'erano tutti i cavi, PL, balle varie. Tra l'altro c'è una camera eco della ZG che l'ho messa dentro il cassetto, a chi non me ne ha fatti nulla, io c'ho il baracchino con l'eco. Insomma, tutta la roba che ci aveva, dai. Però questo baracchino me l'ha dato dentro la scatola, nuovo, ancora con la scatola col polesterolo, e io l'ho quotato, solo il baracchino costa più di 200 euro, capito? Quindi ho fatto l'affare. Sì, su quello sì, no, non lo conosco l'apparato, cioè, non l'ho visto quando l'ha comprato, avevo preso dopo la mia casa dell'Inter, perché prima l'ho preso, insieme a loro l'ho preso l'Inter, che per me si può conoscere, se non credo. Perché un microfono della cittadini, insomma, non mi importava un dito con me, perché non sono andato con i cittadini, però dell'apparato, la forma del nuovo nuovo, del lineare, sapevo che c'era un problema, però c'era un'altra cosa, c'era una copertura, c'era i profumi, c'era una roba di roba. Io ho detto a Giovannino di guardare, perché anche Luca mi ha detto che c'aveva altra roba, solo a me mi ha portato solo questa. Comunque mi ha detto Giovannino che adesso guarda tutto quello che trova, lo mette dentro una scatola e me lo va, capito? Non ci sono problemi. Ho un lineare nuovo, fra poi di ultima, un lineare di ultima generazione, ammiro, quando l'ho visto l'ho preso al buio, poi se funzionava o non funzionava già lo metto a posto, ma c'ha due resistenze bruciate, anzi una, però Vannino mi ha consigliato di cambiarle tutte e quattro. C'è una resistenza bruciata che è praticamente la resistenza che commuta le valvole sull'ingresso della nudica, e quindi non eccita il relè, non eccitando il relè chiaramente non ti dai il watt, però quattro resistenze mi costano 5 euro, quindi lo metto a posto e l'ho già pulito, è nuovo, coperchio non c'è niente dentro, si vede che non è mai stato toccato, capito? E quindi lo metto a posto e lo faccio funzionare magari con l'Alan 48, con questo stesso, ma il baracchino è molto bello, il baracchino è l'ultimo che aveva fatto la Galaxy come veicolare, dopo il Galaxy Pluto è nato questo, ed è molto bello, veramente molto interessante, io non lo conoscevo neanche, c'è la tastiera davanti, è tutto programmabile, poi c'è il frequenzimetro grandissimo, con i decimali 00, c'è il frequenzimetro come il 140, figurati tu, un bello Smith, rosmetro, wattmetro, c'è il processore, c'è un sacco di cose sto baracchino, è veramente, veramente molto, molto interessante, ma io gli ho attaccato il Tane più 3, ho deciso a provare se va bene il Tane più 3, ho visto che va bene, sto usando il Tane più 3. È micidiale, guarda, è micidiale, c'è una modulazione, guarda, se uno per dire non sa cosa stai usando, per me stai usando un 140 con la micidiale. No, è bello fra, ma io l'ho visto subito, poi vabbè, non pensavo che, perché baracchini anche se li tieni molto, molto fermi come questo, tu sai benissimo, poi quando è morto braccio di ferro, chiaramente la roba è stata tutta ritirata e messa da parte, però è un sacco di anni fermo, io prima l'ho acceso, l'ho fatto un pochino scaldare, ho visto che funzionava tutto, frequenzimetro, era impostato, ha perso le memorie, c'era cambiato la batteria a litio, perché c'è la batteria a litio, c'ha 100 memorie sta radio, ed è molto bella, veramente molto bella, adesso appena ho 2 minuti, adesso sistemo prima l'amplificatore, poi compro la batteria a litio, gliela cambio, l'ho memorizzato tutto dal canale 1 al canale 80 e lo lascio stare così memorizzato, capito? Perché c'ha il display, c'ha il doppio display, frequenzimetro proprio grandissimo, molto bello, e poi a fianco c'è la memoria che ti dà, quando memorizzi ti esce anche il canale in piccolo, quindi le cambio prima la batteria a litio, poi lo memorizzo e lo userò così in città anche per fare due chiacchiere, insomma baracchini ne ho tanti, ne ho più di 10, sono, questo è quello meglio di tutti sicuramente, però ne ho anche l'MS200, il SEAS, sono tutti baracchini di vecchia generazione che funzionano molto bene, però questo mi piace perché c'è il frequenzimetro e poi riesce molto molto bene, ne ho provato anche il Tamer più 2, il Sadelta, l'MS600, vanno tutti bene i microfoni che c'ho da tavolo, però col Tamer più 3 la modulazione è più fedele, capito? Ecco, io ho già ascoltato abbastanza, no, già va bene, comunque hai fatto la parola, infatti io quando ho parlato con Giovannino, io sono andato più che altro a vedere se c'aveva l'antenna, che serve, infatti lui mi ha detto Giovannino che l'antenna è stata tutta rotta e buttata perché un fulmine gli ha bruciato tutto, tu mi ha detto, dice, e un giorno vediamo, dice, se ti interessa, mi interessa per una cosa, però vediamo, bisogna vederlo prima, no? Prima di comprare. Infatti, poi, sentito qua in radio, anche se non sono entrato, ti ho sentito a te che sono stato a Romania, e ho detto, ma ho capito, come hai preso la... quello che hai detto, ho capito il buono, chi era. Infatti con me ti ha detto nel momento, dice, ma anche tratto sto facendo da fare, però non avevo ancora concluso. Sì, me l'ha detto Vannino. No, io ero già da tanto tempo che mi aveva accennato questa cosa Giovannino, capito? Però poi quando io facevo servizio a Sorso mi avevano trasferito, quindi ci siamo un po' persi di vista e allora non ho praticamente mai concluso. Ieri è capitato che, ti ripeto, sali da Sassari da Lucca, c'aveva tutto in macchina. Sono sceso, gli ho dato i soldi, mi sono preso la cassetta per intero, ma ti ripeto, senza provare assolutamente niente, sapevo, insomma, andavo incontro a qualche riparazione, qualche cosa, ma il baracchino è perfetto, è nuovo, l'ho tolto dalla scatola, gli ho attaccato l'alimentazione, ha funzionato subito, non ho manco, non solo passato lo straccio perché è nuovo, nuovo. Il lineare, quando l'ho attaccato, visto che non è commutato da lì, l'ho spento, l'ho messo da parte, oggi l'ho aperto, visto che c'è una resistenza sulla commutazione della nodica che è bruciata e quindi gliel'ho già tolta, già tutto pulito, tutto a posto. Devo aspettare a martedì per comprare le resistenze, piazzargliele e poi lo mettiamo a tirare perché è un bestione, c'ha 5 valvole micidiali molto grosse, dovrebbe dare un sacco di potenza, solo che devo vederlo prima se ha fatto altro danno o se sono solo queste resistenze, fra, capito? Ecco, ma io ti ho aspettato una cosa, no? Ho detto, ma non è, era tutto fermo quasi un anno prima di lui lasciare il mondo, no? Devo dire, era quasi un anno fermo, prima di... Faccio adesso, l'apparato magari, però sai cosa si è trovato nell'apparato? Magari perché l'ha detto una stabile sull'uomo, cioè, e non ha preso né umidità né niente, e si è salvato lì. Sì, ma infatti, fra, io quando l'ho visto dentro la scatola, cazzo, questa è nuova la radio, l'ho tolta e c'aveva il nylon, col polistirolo, tutto bello coperto, nuovo, non c'ha un graffio. Lampadine tutte belle accese, c'ha la tastiera davanti con tutte le funzioni, c'ha tutti i filtri, c'ha il processore, c'ha lo shift addirittura per il cambio di frequenza in automatico con i decimali, sembra un HF in miniatura, molto molto bello. È stato un affare perché la radio costa un sacco di soldi, più c'è questo amplificatore che ho messo a posto, si vale sicuramente più di 300 euro, però mi tengo tutto, non me ne frega niente, ormai ho fatto l'affare e basta così, capito? Tutto qua. Va bene, fra, quando, intanto guarda, domani passo da Sorso, faccio Sedini come ultimo controllo, domani è... Passo da Sorso, se ci sei, ci vediamo da Vannino. Dai signori, io vi saluto per mezzanotte. Gennaro, ti saluto, grazie delle due chiacchiere, poi ci aggiorniamo con calma per questo baracchino. Scusa che stavo parlando con Franco. Ciao Fra, buonanotte, ci sentiamo. Buonanotte a tutti signori, statemi bene, a domani. Ehi, Claudio, comunque dai, già ci sentiamo, domani non ci sono altri coglioni. Comunque già ci sentiamo per un'altra occasione, dai. Ci sentiamo, ciao, buona Pasqua, buon tutto, buon lunedì di Pasqua e ci sentiamo. Ciao, ciao. Claudio. QSL, d'accordo, fra lei, ciao, buonanotte, ci sentiamo. Sì, Gennaro, sto chiudendo perché è tardi, se no disturbo qua il cuore a famiglia. Riprendi, ci sentiamo domani, ok Gennaro? Come radio è superiore il Magnum, senza ombra di dubbio, però la LAN 48 per l'uso che ne facciamo noi, io e tu, lui. Luigi, insomma tutti quelli che ci hanno l'Alan 48 modificato, al Magnum come Echo lo supera notevolmente. L'Echo dell'Alan 48 modificato è molto più bello del Magnum, però il Magnum come radio è superiore. Hai capito cosa ti voglio dire? Come radio esteticamente, tutte le funzioni, come ricevitore, però come trasmettitore con l'Echo l'Alan 48 è più forte. Sì, perché l'Alan 48 è una radio che è modificata, quindi le modifiche che c'hai va bene, vanno bene. Però c'è una cosa, che se al Magnum se fai le modifiche dell'Alan 48, allora sono dolori, Perché sono dolori? Perché è più forte dell'Alan 48 se tu le fai le modifiche, se le metti la scheda a colte. Nel Magnum si può mettere la scheda a colte. Dell'Alan 48, quindi con la scheda Colt, alcune cosettine, regolazioni eccetera, è molto più forte dell'Alan 48. Oggi tu non hai niente da vendere. Oggi è una guerra, io ho comprato questo baracchino, questo è un Galaxy di ultima generazione. L'ho comprato, ho fatto un affare che di un vecchio CB che è morto, ce l'avevano a casa e quindi me lo sono comprato. Però altri baracchini non ne ho da vendere, ho gennaio, capito? C'ho l'Alan 48 modificato, c'ho questo, ne ho tanti di baracchini, molto belli, però me li tengo perché sono un collezionista, capito? Per quanto riguarda i trasporti, ci vuole un po' di pazienza e vedrai che ci arriva tranquillamente senza problemi. Comunque tutto l'ho detto, adesso martedì quando apre la Delta Mike senti a loro, le dici questa cosa, ti fai un giro di conti, senti un pochino, poi tramite Luigi, insomma tutti quelli che ti conoscono eccetera, si vede un po' di darti un consiglio, capito? Perché io l'Alan 48 ce l'ho, tu lo sai, e quando io uso quella col beacon e l'Echo mi dimentico di tutte le altre radio. Questa è molto forte la modulazione tua, molto molto forte, non so se riesci a averla col Magnum questo tipo di modulazione. Non lo so, sicuramente non esci così come stai uscendo adesso, saggia, tieniti quello perché meglio di così non si può uscire, stai arrivando una bomba, sei una bomba qua a casa mia e gli altri non lo so, ma a casa mia sei una bomba, 9 più 10 radio super 5. Claudio, non ti voglio più trattenere, ma diciamo la migliore radio è stata sempre il 40. ci abbiamo io e tu, il migliore rimane sempre l'Aran 48. Ne hanno modificato tanti, però l'Aran 48 per me è sempre il migliore, sempre. Io ce l'avevo, l'ho dato a Luigi Vulcano e Luigi Vulcano addirittura l'ha regalato al nipote, capito? Perché io l'avevo comprato, poi anche a me non mi piaceva perché io c'avevo l'Aran 48 e quindi usavo l'Aran 48, capito? Se non avevi l'Aran 48, Gennaro, allora sono d'accordo con te. Per comprare un altro baracchino, ti dicevo, comprati il Magnum che è il numero uno. Ma se c'hai già l'Aran 48, non ti serve a niente comprare il Magnum, capito? Pesolo Elettronica, lo trovi in viale Monastir all'ingresso di Cagliari a sinistra, arrivando da Sassari, capito? A uno dei sette nani di Biancaneve che si chiamava Pisolo e questo si chiama Pesolo. Sì, ce li ha, c'è quelli della Intec che sono i migliori in assoluto, c'è quelli della Midland e anche dovrebbe avere qualcosa della Fayette, tutte robe di marca, roba buona, Gennaro, tutta roba buona. Normali, non sono grandi Gennaro, sono distanza normale, dai, come un portatile un po' più grande del portatile LPD, dai, di un portatile VHF, una cosa del genere. Bisogna andare lì a vedere che cosa c'ha, perché io quando ero andato ho visto che c'era abbastanza roba, capito? C'era abbastanza roba. Va bene Gennaro, dai, scappo perché domani io lavoro, capito? Domani io lavoro purtroppo e quindi è già tardi per me, dai. Ci aggiorniamo domani, ok? Mi raccomando Gennaro, mi raccomando, quando mi senti aspetta che ti rilancio, così facciamo questo tutti assieme, perché sennò non si capisce niente, ok? Non è che ce l'ho con te io, lo sai che ti voglio bene. Pesolo, segnatelo, Pesolo. Bene, Claudio, ti auguro buona notte e buon lunedì della Pasquetta. Ok Gennaio, io lavoro domani, capito? Io domani sono a lavoro, io faccio i turni, quindi domani mattina lavoro, ci sentiamo domani sera, ok? Vabbè, ciao Claudio. Ciao Gennaio, buonanotte. Ascolta, dammi un controllo per favore, sto così. siamo a 8:45. Prova 1, 2, 3, 1, 2, 3. Santiago 9, sì, radio 5. Vabbè, la radio come si capisce, com'è? Sì, no, è grande. Sì, vabbè, dai. D'accordo, dai. Buonanotte, fra. A me ben ci sentiamo. E a me come mi senti con questo Galaxy? No, benissimo, vedi, radio forte, sempre con un HF, una radio fortissima, buona, perfetta e impeccabile. Ma che non ha detto Valentino, ho fatto un affare. Va bene, dai. Ti saluto Fabrizio, buonanotte, a domani, ciao ciao ciao. E buonanotte anche a te, ciao.